estructurar la responsabilità etica, giusto? La conversione banca etica per questo iniziativa, per questo incontro, tra l'altro con Banca Etica ci siamo visti l'ultima volta proprio in questa sala quando con il Vice Ministro Morando abbiamo discusso della possibilità di introdurre una misura, diciamo, a sostegno della finanza etica, e devo dire che diciamo, dopo qualche settimana ci siamo riusciti, perché nella legge di bilancio è stata introdotta una misura, è stato introdotto il riconoscimento della finanza etica come soggetto e poi delle misure a sostegno. Quindi speriamo che quell'evento che è nato qui e che ha portato a quel risultato così fortunato si possa replicare anche, diciamo, con questa iniziativa. Io non sono un esperto di grandi opere, ho seguito, diciamo, da vicino alcune questioni, in particolare la questione del Mose, perché sono stato eletto nel Collegio di Venezia, c'è la collega Spessotto che anche lei, diciamo, è molto attenta e sensibile a questo tema, anche lei eletta, diciamo, in quella parte del nostro paese. L'altro collega è appena entrato, il collega Giorgio Airaudo, che invece ha seguito da vicino la questione della TAV e quindi ci vorrà magari raccontare cosa sta succedendo, perché c'è una casualità, diciamo, fortunata, che è quella fortunata, diciamo, per il nostro dibattito, che è quella della discussione che è partita oggi sull'accordo con la Francia relativamente al completamento dei lavori della sezione transfrontaliera, diciamo, il completamento dell'opera relativamente appunto a quel pezzo, diciamo, di lavori che deve essere ultimato, e voteremo domani, oggi è iniziata la discussione, voteremo domani l'accordo, e quindi noi, come Sinistra Italiana, il Movimento 5 Stelle, tutte le forze di opposizione che si sono battute in questi anni contro questa opera faranno sentire la loro voce e opporranno le loro proposte, diciamo, a questo accordo che deve, diciamo, dare dal via, diciamo, al completamento, diciamo, dei lavori in quella sezione. Cosa dire anche? Che dopo domani avremo Del Rio, anche questa è una casualità, diciamo, importante, Del Rio che risponderà nel question time sulla vicenda del Mose, delle grandi opere e delle grandi navi, scusate, anche le grandi navi, ma che vedere a me con l'impatto, come posso dire, di un gigantismo turistico da questo punto di vista nefasto per una città come Venezia, rispetto al quale il governo non ha ancora trovato una soluzione. Ricordo che entro il primo febbraio l'UNESCO ci ha detto che entro il primo febbraio il governo doveva rispondere su una serie di questioni legate all'emergenza Venezia, tra cui grandi navi, gestione del turismo, Mose, pena, diciamo, declassamento, pena di inserimento di Venezia nella cosiddetta danger list, di quei siti, diciamo, che sono patrimonio dell'umanità, a rischio, diciamo, per le conseguenze del mancato, diciamo, intervento a salvaguardia ambientale, architettonica, culturale. Cosa dire, diciamo, in pochi minuti? Questo, che allora, su questa vicenda delle grandi opere, una vicenda che mi ricordava l'amico Stefano Lenzi, diciamo, un'affermazione di Vigna ripetuta da Cantone recentemente, è una vicenda, diciamo, criminogena, diciamo, per certi versi, almeno così è stata definita la legge obiettivo allora e poi appunto recentemente da Raffaele Cantone, cioè una vicenda criminogena, diciamo, che ha messo in luce sostanzialmente un fallimento di quell'avventura appunto iniziata con la legge obiettivo del 2001 su tre aspetti. Il primo è la realizzazione delle opere, abbiamo visto che appunto nel documento di economia e finanza, come sapete, diciamo, c'è stata una riduzione delle opere prioritarie. Questo è già il punto di un fallimento rispetto, come si dice, all'ipotesi originale, il dimezzamento sostanzialmente delle opere previste. Secondo aspetto riguarda, come posso dire, i soldi effettivamente impegnati e spesi rispetto ai famosi 285 miliardi che erano stati previsti e alle opere che sono state realizzate. E qui, diciamo, dovremmo anche essere, diciamo, contenti, nel senso che, diciamo, la riduzione delle opere e anche dal contenimento della spesa abbiamo avuto meno danni di quanti, diciamo, ce ne potevano essere. Ma c'è un terzo aspetto che riguarda la scelta delle priorità. io dico sempre, noi diciamo sempre, diciamo che ci sono delle grandi opere che, di cui il nostro paese ha bisogno e che non corrispondono, posso dire, alla costruzione di un buco nelle Alpi piuttosto che di una serie di viadotti o altro, che sono grandi opere fatte di tante piccole opere. Pensiamo ai tanti interventi di lotta al dissesto idrogeologico, pensiamo alla messa in sicurezza di oltre 10.000 scuole che non rispettano, alcune non rispettano le norme antisismiche, altre non rispettano le normative ordinarie, diciamo, per la sicurezza, normative antincendi, di stabilità statica, eccetera, eccetera. C'è, come posso dire, un insieme di grandi opere di cui questo paese ha bisogno, che è fatto di tante piccole opere, e alle quali, diciamo, non si dà risposta. Tra l'altro, le piccole opere che poi compongono, diciamo, delle grandi opere sono, diciamo, opere che di solito possono partire in fretta, hanno un impatto immediato sull'occupazione e sulla possibilità delle imprese di mettersi, diciamo, al lavoro, diciamo, rispetto alle iniziative che vengono proposte. E credo, diciamo, che da questo punto di vista anche la riflessione sulla legge di bilancio, anche qui lo stavamo ricordando prima, diciamo, è abbastanza, così dire, istruttiva, perché si sparano tante cifre anche dal punto di vista della, no, del marketing, della propaganda, però noi abbiamo una cifra, di bilancio, parliamo solo del 2017, perché per gli anni successivi cambia sempre tutto e, insomma, si può dire tutto di quello che succederà tra 20 anni o anche tra 2 anni, insomma. Però guardiamo il dato del 2017, 1 miliardo e 900 milioni di euro per gli investimenti pubblici, e uno fa vedere l'elenco e conta l'elenco, sono 12 titoli, perché adesso tutti a memoria non mi ricordo: edilizia scolastica, edilizia pubblica, sostegno all'export, l'innovazione, infrastrutture, lotta al dissesto idrogeologico, la digitalizzazione, l'amministrazione giudiziaria, l'energia, insomma, io ne ho contati 12, quindi devi utilizzare quel miliardo e 900 milioni per tutti, diciamo, i settori che vengono, sono stati individuali, quindi mi sono fatto il conto, vengono fuori 150, se uno dovesse fare un conto proprio così semplice, 150 milioni per ogni settore di intervento, che è pochissimo rispetto, diciamo, alle priorità, alle emergenze che ciascuno di questi settori evidenzia. Quindi dietro una grande cifra, poi in realtà quella che viene presentata come grande cifra, ci sono in realtà interventi molto modesti rispetto alla realtà concreta. Dicevo, legge obiettivo criminogena, sappiamo perché, sappiamo, insomma, cosa è successo in questi anni, sappiamo, diciamo, cosa questo ha significato per le procedure, per l'individuazione attraverso, diciamo, meccanismi come general contractor, diciamo, di una serie di opacità e di, come posso dire, e di scarsa trasparenza, appunto, che ha riguardato tanti delle opere, perché qui faccio l'esempio di casa mia, Mose, Venezia. Sappiamo benissimo come è successo in questi anni, attraverso una cricca, attraverso un meccanismo, diciamo, di assegnazione di opere attraverso un general contractor, che ha prodotto, diciamo, quel meccanismo del malaffare che ha, diciamo, infettato non solo il mondo della politica, ma anche appunto il mondo dell'imprenditoria e anche il mondo di chi doveva controllare, perché diciamo, questi schizzi di fango molto, molto consistenti hanno, posso dire, sono arrivati fino alla Guardia di Finanza, fino, insomma, a chi doveva, fino, diciamo, alla stessa magistratura, chi doveva controllare e non ha controllato, ed è stato, tra virgolette, beneficiato da questo sistema di opacità, che è quello che è sotto gli occhi di tutti. Per cui una riflessione, diciamo, anche laica, diciamo, su quello che è successo, laica nel senso non ideologico, su quello che è successo andrebbe portato fino in fondo. Vedete, il caso, appunto, Venezia, noi quest'anno penso che abbiamo, non mi ricordo, quest'anno è l'ultimo anno di finanziamento al MODE, penso che abbiamo completato con circa 300 milioni, non è mai l'ultimo perché non si sa mai, però siamo sulla carta sugli ultimi 300 milioni di 5 miliardi erotti, diciamo, di spesa complessiva per il MOSE. E allora, praticamente, diciamo, se pensiamo a quello che è stata la legge speciale per Venezia, il fatto che ovviamente tutti i soldi sono stati inghiottiti da queste grandi opere, poi vedi Venezia e vedi che non ci sono i soldi per fare la manutenzione delle fondamenta, non ci sono i soldi per fare gli scavi e i canali, perché i canali, diciamo, si riempiono, diciamo, di detriti e devono essere puliti, diciamo, in modo abbastanza costante per fare in modo che che le barche passino. E non ci sono i soldi per fare le bonifiche, c'è la questione Marghera, no? Che è una questione, diciamo, di grande rilevanza, cioè della riconversione di quel sito, diciamo, ad altre finalità. E allora queste sono le grandi opere di cui un paese, diciamo, come il nostro oggi avrebbe bisogno. Purtroppo, diciamo, la scelta che è stata fatta anche in modo ideologico e in modo interessato per certi versi e anche con una visione sostanzialmente vecchia è stata un'altra. Allora, tutto questo, e chiudo, ha a che vedere, insomma, può essere in qualche modo rimesso in discussione, può essere oggetto anche di un nuovo confronto. Sapete che il decreto 50 del 2016, il codice appalti, no, potrebbe aprire una nuova, un nuovo squarcio, ci sono alcune luci, diverse ombre, no? Tra le luci, tra virgolette, potremmo inserire, diciamo, la fine della procedura, così, diciamo, non quella che ho descritto prima, diciamo, del genere contratto, diciamo, della procedura fondata sulle deroghe, sostanzialmente sulla gestione priva di controllo. C'è la questione della cosiddetta, visto che c'è un lavoro come tribunale permanente di popolo, sulla contrattazione pubblica, no? Prevista dal codice appalti. Come avverrà, con quali forme, attraverso, diciamo, quali procedure, come sarà applicata. Poi c'è un altro aspetto, questo abbiamo come gruppo di Sinistra Italiana, anche per la sottoscritta anche da altri deputati, perché anche i 5 Stelle hanno fatto un'iniziativa su questo tema, c'è il tema del sorteggio dei componenti delle commissioni di gara, che è un altro aspetto previsto nel codice appalti, che garantisce ovviamente una maggiore, come so dire, una maggiore trasparenza, o comunque sia una maggiore, non so dire, un minore rischio che, diciamo, i componenti della commissione di gara nominati per via, diciamo, di eccetera, influiscono sulle decisioni. Ecco, vediamo, siccome mancano ancora, diciamo, alcune norme di attuazione, diciamo, del codice appalti, vedremo come appunto questi tre aspetti, che possono essere degli aspetti importanti, degli aspetti di innovazione, potranno influire sul sistema regolatorio, appunto, delle opere e anche, soprattutto, sulla partecipazione dei cittadini. Proprio in questa sala, sempre in questa sala, un po' di tempo fa, facevamo un'iniziativa con Luigi Bobbio e Sintomer, che è uno dei principali teorici dell'uso del sorteggio in Europa, e Luigi Bobbio raccontava della sua esperienza fatta proprio su un'opera, un coinvolgimento di cittadini di Liguria, se non ricordo esattamente quale opera fosse, ma ci raccontava di come si era costruito un meccanismo di coinvolgimento, di partecipazione dei cittadini, di informazione e anche di decisione rispetto alle scelte che vengono fatte. Ecco, io penso che questi aspetti sono aspetti centrali anche che dobbiamo cercare di mettere maggiormente su, e dobbiamo mettere maggiormente enfasi, e io penso che il lavoro fatto dalla Fondazione Basso e la Fondazione Banca Etica sia un lavoro fondamentale per cercare di individuare quali possono essere i meccanismi di un maggiore controllo dei cittadini, una maggiore partecipazione alla fase di progettazione, di individuazione e di scelta. Io ricordo che quando, non esistono più, ma quando c'era il governo Prodi 10 anni fa, quando Bersani era ministro, si fecero i contratti di quartiere. Che cosa erano i contratti di quartiere? Erano delle simulazioni, erano la realizzazione di progettazione partecipata, fatte in alcune zone, diciamo, particolarmente impegnative, mi ricordo Cinzello, Balsamo, Corviale, altri posti, diciamo, dove c'è disagio sociale, con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nell'individuazione di obiettivi, per scelte da fare, attraverso quali modalità, dove mettere i soldi, eccetera, eccetera. Io penso che sulle grandi opere che impattano in modo così forte, diciamo, no, la vita dei cittadini e delle comunità, vediamo cosa succederà al codice appalti, dobbiamo mettere in campo, posso dire, degli strumenti di partecipazione, di controllo e di progettazione partecipata, come si dice, come di individuazione, diciamo, delle scelte che vengono fatte, in modo tale da dare centralità alle comunità locali, ai cittadini e anche ovviamente agli enti locali, alle autonomie locali, che hanno un ruolo fondamentale e che invece rischiano di essere scavalcate. Fortunatamente non è passata una riforma costituzionale che avrebbe, diciamo, ulteriormente messo in una posizione subalterna, subordinata, diciamo, agli enti locali rispetto alle scelte sulle infrastrutture che riguardano il loro territorio, però quindi ritengo ci sia molta strada da fare, quindi insomma questo dibattito penso che sia molto importante e vi ringrazio ancora per l'iniziativa promossa, grazie. No, anzi siamo noi a ringraziare l'onorevole Marconna perché la possibilità di svolgere questo dibattito oggi pomeriggio in questa sala è legata anche all'impegno diretto di Giulio Marconna. E tra l'altro, sentendo di parlare, mi fa venire in mente che riflettendo su questo convegno sembra di essere in una situazione paradossale, perché in Italia credo che nessun cittadino possa dire che non ha un drammatico bisogno di opere, piccole, medie o grandi, dal punto di vista infrastrutturale, sotto molti punti di vista. Ovviamente chi abita a Roma sa di quanto è necessario, ad esempio, infrastrutture per la mobilità che permettano di abbattere l'uso di auto private, visto che Roma è la capitale europea con il maggior numero di auto per abitante. Però d'altro canto ci troviamo a parlare di grandi opere come di un problema, di una piaga, ed è giusto che sia così, cioè è effettivamente così. Per cui come noi usciremo tutti più felici da qui se riusciamo non solo a criticare il sistema delle grandi opere oggi, ma cercare di individuare come si possono catalogare le opere, individuare le opere buone, che siano grandi o piccole, ma buone ed importanti. In questo ci può far dare una forte mano il Tribunale Permanente dei Popoli, perché si è occupato di grandi opere in Italia e anche in altri paesi europei che vari continenti attraverso sue importanti sentenze, e quindi passo la parola a Franco Ippolito, che del Tribunale Permanente dei Popoli è il Presidente. Grazie a voi per la vostra presenza, porto innanzitutto il saluto della Fondazione Basso e il ringraziamento all'onorevole Marconi per aver consentito per aver agevolato e promosso questa iniziativa. La Fondazione Basso ha avuto modo di impattare il problema grandi opere attraverso una sua articolazione, che probabilmente non tutti conoscono, mi pare di dover dare qualche indicazione. Tanti anni fa, siamo negli anni 70, vicende mondiali straordinarie, prima fra tutti la vicenda del Vietnam, attivarono dei meccanismi di autoresponsabilizzazione della pubblica opinione a livello mondiale, sino alla costituzione di un tribunale di opinione. Il tribunale che prese il nome dal suo presidente, che era Bertrand Russell, e si denominò Tribunale Russell, che ebbe due sessioni, l'una sui problemi del Vietnam, l'altra sui problemi dell'America Latina. Che l'America Latina, paese e continente soggetto a terribili oppressioni. Da quell'esperienza, che visse in prima persona nel Basso perché faceva parte di quei tribunali, nacque l'idea di una istituzione permanente. E poiché a metà degli anni 70 Leo Basso mette vita una grande conferenza internazionale a Genova con la proclamazione della Carta dei diritti dei popoli, di lì a qualche anno, fine anni 70, nacque il Tribunale Permanente dei Popoli, che è un tribunale di opinione, nel senso che non rappresenta nessuna istituzione politica, territoriale, nessuno Stato, nessuna organizzazione sovranazionale, ed è un tribunale indipendente composto da una lista attualmente di 75 personalità di ogni parte del mondo che vengono scelti per la loro competenza, autorevolezza, indipendenza e fattiva iniziativa sul piano della difesa e della promozione dei diritti umani. Che forza ha un tribunale di opinione? Ha la forza che deriva dall'autorevolezza dei suoi componenti e soprattutto dalla razionalità e dal fondamento giuridico ed etico delle sue opinioni, appunto, opinioni che hanno la forma di sentenza, perché il metodo è il metodo proprio giudiziario, fatto di istruttorie, fatto di contraddittorio, di garanzia del diritto della difesa, di audizione di testimoni e così via. Naturalmente non ha, proprio perché non proviene da nessuna istituzione statale o sovranazionale, l'unica forza che ha è la forza che deriva dal consenso della comunità. Il fatto che in questi quasi 40 anni il Tribunale abbia emesso quasi 40 sentenze in giro per il mondo, in Asia, in America Latina, in Africa, nord in Europa, e che molte di queste sentenze sono state prese in considerazione dalle Nazioni Unite, di per sé assegna a questa esperienza una particolare valenza etica e giuridica. Ecco, qual è l'altro elemento per cui il Tribunale continua a vivere e a essere richiesto intervento anche dopo che nel 1998 finalmente è stata costituita, a seguito di apposito trattato stipulato proprio qui a Roma, la Corte Penale Internazionale, che fu anche un prodotto dell'impulso e del lavoro culturale che il Tribunale per mezzo di Roma aveva fatto in giro per il mondo in tutti questi anni, in tutti quegli anni. Ora, la Corte ha competenza semplicemente per gli stati che hanno sottoscritto, e qui c'è da dire che tra gli stati che non hanno sottoscritto ce ne sono alcuni di prima grandezza, come gli Stati Uniti, quali non solo non hanno sottoscritto la Convenzione, ma si attivano fortemente perché stati che hanno sottoscritto recedano da questa ratifica. E questo è un primo elemento di sicurezza della Corte. L'altro elemento è che di fatto questa Corte in questi anni, in questi 18 anni, in realtà ha continuato ad esercitare quel po' di giurisdizione internazionale verso i soggetti deboli o verso quelli già sconfitti, ma finora non ha dato grande segno di attivismo verso gli stati forti. Questo fa sì che, malgrado l'esistenza di questa Corte, che noi vorremmo funzionasse sempre meglio, un tribunale di opinione può ancora continuare a dare la voce alla violazione di diritti, alla denuncia sistematica di diritti umani che non trovano voci istituzionali. Ma anche quando trovano voci istituzionali, quindi mi avvicino al nostro problema, perché qui, per esempio, nell'agenda, nelle vicende grandi opere, in particolare nella vicenda TAV Torino-Lione, ci sono stati degli interventi, diciamo, di organismi giudiziari, del TAV per esempio. Ma il problema che in uno Stato costituzionale di diritto la giurisdizione è normalmente essenziale, però perché la giustizia sia effettiva anche in stati di democrazia avanzata, per un momento volendo credere che non siamo uno stato di democrazia avanzata, ma su questo si può aprire un altro dibattito che non è il dibattito di oggi, c'è da dire che le corti e i giudici lavorano in contesti determinati, di tipo storico, di tipo culturale, di tipo sociale, mentre l'esigenza di diritto e di giustizia va ben al di là del laureato. E quindi avere un'opinione pubblica particolarmente attenta a volersi interessare delle vicende di giustizia, delle vicende del diritto e dei diritti violati, è un elemento essenziale, primo perché i tribunali funzionano al meglio, in un contesto propizio all'affermazione dei diritti, perché in mancanza di una pubblica opinione particolarmente attenta, inevitabilmente il potere culturale, le egemonie delle forze più poderose finiscono con il determinare alcune soluzioni e comprometterne altre. Questo non vuol dire che i giudici sono sensibili a queste indicazioni, ma certo, se tutta la stampa nazionale ci fa credere che senza il collegamento Torino-Lione il paese va in crisi, beh, insomma, un giudice amministrativo ordinario che deve affrontare un problema, quel problema, qualche considerazione in più per vedere tutto un fronte così agguerrito finisce con porselo. Ecco perché diventa, ed è diventato, importante prestare da parte di un tribunale di opinione attenzione a questa vicenda, anche perché poi è stata una attenzione, come dire, di ufficio. C'è stato il conto osservatorio della Valsusa che ha fatto pervenire al tribunale una documentazione molto ricca, e nello stesso tempo altre associazioni, correnti di associazioni francesi, belghe, canadesi, hanno fatto pervenire le loro osservazioni sui problemi delle grandi opere, e ciò ha indotto la presenza del tribunale a prendere in esame il problema Piemonte, cioè Valsusa, in concomitanza con altri grossi problemi europei. Diceva prima Nicoletta Dentico una singolarità nel senso originalità di questa sentenza è che ha preso in esame direttamente il funzionamento dei meccanismi sociali e istituzionali in un paese avanzato. E perché bisogna dire che i tribunali di opinione vengono richiesti continuamente gli interventi in realtà in difficoltà o sottosviluppate o in via di sviluppo, e gli stessi meccanismi internazionali privilegiano situazioni particolari. Per fare un esempio che ci collega molto alla nostra vicenda, c'è tutta una normazione delle Nazioni Unite a tutela delle popolazioni indigene dell'America del Sud, delle popolazioni indigene, della particolare cultura e del particolare rapporto che queste popolazioni hanno con l'ambiente, con la terra, che non è semplicemente il dover, come dire, respirare in maniera sana o non beccarsi la diossina che viene fuori nel circuito di Taranto per quanto riguarda la siderurgia, ma è proprio il rapporto culturale, come loro dicono, ancestrale con la terra, che connota questo tipo di civiltà. Bene, le Nazioni Unite con varie risoluzioni e anche con alcune convenzioni hanno stabilito che il diritto delle popolazioni indigene ad essere consultate, ma non per finta, sul serio, sul come e a volte anche sul se fare degli interventi di impatto ambientale ha ricevuto l'assenso della gran parte dei paesi del mondo. Allora noi siamo andati varie volte in America Latina a affrontare questi problemi. Nel momento in cui una rete vasta di associazioni o di cittadini ci dice: ma scusate, voi andate in Asia, andate in America Latina a porvi questi problemi, e noi? Allora la prima risposta è: qui funzionano i tribunali, funziona il circuito della democrazia, funzionano i comuni, i municipi, i comitati di quartiere, la provincia, la regione, lo Stato, l'Europa, e sono tutti organismi che formalmente sono stati coinvolti nella decisione, per esempio sulla TAV Torino-Lione, ma il discorso lo faccio a titolo esemplificativo, si può fare anche per altre situazioni. Ecco, non c'è bisogno proprio. Poi c'è il problema della salute, poi c'è il problema dell'utilità, serve o non serve. Allora, di fronte a tutti questi problemi, la presenza del tribunale, proprio perché è un organismo che si muove con cultura giurisdizionale, mise subito le pareti e disse: il problema se l'opera è utile o non utile, che è un problema centrale, non è questione giudiziaria. Per il semplice fatto che sono le grandi questioni che attengono alle scelte della politica e non è certo un giudice che ha competenza su queste cose. Così come fino a quando non c'è la prova che sono state violate tutte le regole di accertamento, non possiamo prendere in considerazione il supposto danno alla salute, perché finora nulla di clamoroso è emerso. Di che cosa dobbiamo e possiamo preoccuparci? C'è una convenzione internazionale sottoscritta da tutti i paesi dell'Europa occidentale, per essere sicuri, che dice, che è la convenzione di Aarhus, che occorre consultare le popolazioni interessate, e questo è il problema di cui dobbiamo interessarci. E vedete, la questione è strettamente collegata all'esempio che facevo prima delle popolazioni indigene. Non è solo questione di consultazione dei cittadini, perché un problema di consultazione dei cittadini in un paese democratico deve aversi il più frequentemente possibile, se non sempre, perché se il governo della cosa pubblica deve essere fatto in pubblico, per il pubblico e con trasparenza, tutte le volte che nasce una questione in cui i cittadini preoccupati pongono un problema, qualcuno a livello istituzionale, che sia politico, sociale, giudiziario e via via, deve assumere la questione e dare una risposta. Ma qui c'è qualcosa di più. Perché il problema Valsusa, cioè il problema di una piccola valle che rischia di essere fortemente incisa nelle sue modalità di vita, in qualche maniera assomiglia al problema delle popolazioni indigene. Prima considerazione. Seconda considerazione. Qual è l'ambito in cui vale il principio democratico? Dico l'ambito territoriale. È quello del municipio, del comune, e quindi o dei comuni della Valsusa, è quello della provincia, è quella della regione, dello Stato, dell'Europa. Ora, man mano che allarghiamo il contesto territoriale, capovolgiamo i punti di riferimento per ciò che significa diritto delle popolazioni coinvolte e spessore degli interessi in gioco. Se io abito a Milano, lasciamo stare Milano, partiamo da Torino, se io abito a Torino, è evidente che nell'affrontare il problema della velocità Torino-Lione vedo semplicemente i vantaggi miei, della mia famiglia, del mio contesto, della città che si sviluppa, dei commercianti. Se io abito in Valsusa, la cosa è completamente diversa. Allora, qual è la dimensione delle maggioranze e delle minoranze che devono essere prese in considerazione? Allora, qui che cosa è avvenuto? È avvenuto che la gran parte delle espressioni territoriali della Valsusa si sono opposte, o hanno detto no, o hanno posto interrogativi, o hanno visto procedure ulteriori di verifica. Man mano che si allarga, che andiamo dalla provincia, poi dalla provincia andiamo alla regione, è chiaro che quella diventa una minoranza sparuta e altre maggioranze prevalgono. Ma qui vi è una tensione forte di democrazia tra lo spessore degli interessi in gioco per gli abitanti della Valsusa e lo spessore degli interessi un po' più generici, se volete, non vitali, degli abitanti della Piemonte, per non dire dell'Italia, per non dire dell'Europa. Italia e Europa perché? Perché qui c'è una tra un patto Italia-Francia, quindi due nazioni che hanno deciso di fare questa cosa, anche se poi i francesi vanno molto più avanti dentro e di solito ce la mettono molto bene perché forse la diffidenza sta aumentando. Ma l'Europa finora ha dato il suo beneplacito. Ma nel momento in cui parliamo di democrazia e nel momento in cui abbiamo questo spettro, per ora lo chiamo così, del populismo, beh, forse trovare meccanismi di seria consultazione delle popolazioni potrebbe essere uno degli strumenti proprio per rompere il meccanismo del populismo, che è quel cortocircuito fra il capo di una organizzazione statuale, geografica, nazionale e il generico e indistinto popolo, il cui interesse nazionale impone di volta in volta il ponte sullo stretto, la TAV, Torino-Lione, Mose e quant'altro. Insomma, il problema va molto al di là di ciò che può fare un tribunale di opinione e di ciò che può fare una corte giuridica, giurisdizionale vera, perché è una questione che incide direttamente sui livelli di democrazia e del processo democratico all'interno di un paese e che chiama direttamente in causa l'organismo di massima rappresentanza dell'esercizio della sovranità popolare, che noi vogliamo continuare a credere che sia oggi e continuerà a essere domani il Parlamento della Repubblica, il che significa che ogni parlamentare è caricato anche di una rappresentanza anche simbolica rispetto a questi processi democratici reali e sostanziali. Spesso ci limitiamo a parlare e a difendere la democrazia rappresentativa. Ecco, un mix di democrazia rappresentativa e di autentica democrazia partecipativa, ma che sia una partecipazione che abbia un senso. Consultare solo per dire c'è questa cosa che esteticamente non va bene, cambiamola, beh, la cosa non è seria. Io vorrei che fosse presa in seria considerazione tutta l'esperienza, ne parlava prima la droga di Macron, che ha fatto Bobbio a Genova a proposito della gronda di Ponente, dove la gente era stata invitata alla consultazione sul come, ma nelle prime sedute si è subito visto che una consultazione vera deve essere anche una consultazione su sé, cioè se una cosa bisogna farla o una cosa non bisogna farla. E lo stesso discorso si apre in Piemonte, lo stesso discorso si apre con il ponte sullo stretto, perché quel sé è essenziale come progetto di sviluppo di un territorio. Fare il ponte che cosa significa sulla gestione della viabilità in Calabria o in Sicilia, o fare la grande velocità che cosa significa sulla gestione di tutto l'ambiente piemontese. Qui, ripeto, il problema è di diritti umani, diritti civili, diritti sociali, ma è soprattutto un problema di grande democrazia e non è un giudice che potrà risolvere. Grazie. Grazie, tanto forte. Intanto chiamo qui sul palco Anna Donati, che sarà la prossima relatrice. Ovviamente sottolineare che serve l'opinione, un'opinione pubblica attenta, secondo me non è mai abbastanza, non si sottolinea mai abbastanza questo ruolo, perché noi come cittadini, io come responsabile, insomma, del mondo dell'informazione, un esponente del mondo dell'informazione, dobbiamo fare la nostra parte, ma i cittadini devono fare la loro parte. Certo, poi mi viene in mente, mentre lui parlava, un'intervista che feci a Tullio De Mauro, che mi ricordava come alcune analisi che aveva sviluppato dimostravano che è sempre più difficile avere gli elementi per un cittadino per muoversi in una società complessa, lui mi ricordava che solo un italiano su 5 aveva le competenze di lettura, scrittura e calcolo che poteva consentirgli di capire, di comprendere un testo complesso, un grafico, un conto in banca o addirittura compilare il bollettino della posta. Quindi significa che probabilmente c'è anche un fattore di informazione e anche di formazione dell'opinione pubblica. Anna Donati ci parlerà dei problemi della attuale legislazione sulle grandi opere e sui criteri, i paradigmi che servono per superare queste criticità. Anche perché 20 minuti e 5 minuti di avviso. Grazie. Okay. Scusate la voce, è quello che è, però lo stesso. Spero con la presentazione di riuscire a farvi capire cosa volevo dire. Usatemi una mozione d'ordine, si vede bene, c'è qualcuno che deve mettere a fuoco il corpo. Allora, se qualcuno dei tecnici c'è, che magari per spegnere anche solo le prime due file di luci, perché se dobbiamo proiettare è meglio avere la penombra, dare in penombra noi. Grazie alla Fondazione Basso, alla, non vorrei sbagliare, Fondazione Banca Etica, per aver sostenuto questa iniziativa. Vorrei anche ricordare Roberto Fude, Nicoletta Dentico, perché poi operativamente chi si è avanciato l'idea e si è messo sulle spalle per un'organizzazione. Sono stati anche loro. Allora, voi sapete che gli ambientalisti, io davvero, adesso in Italia, ma in generale, si sono sempre occupati di grandi opere per contrastare quella che era questa idea, che ancora purtroppo è ben diffusa e radicata, che non vorrei un addormentamento generale. No, però, adesso facciamo le cose. Una differenza, il tema delle grandi opere è sempre stato un tema che ha dilaniato molto a sinistra, mentre la destra non aveva mai avuto problemi e infatti nel 2001, quando è andata al governo Berlusconi con i Lunardi, si è approvata legge obiettivo e da lì è partita in grande stile. In realtà cose vengono da molto prima, poi lo vedremo, ma insomma sicuramente quello è stato un punto di svolta importante, perché con una legge si sono sancite una serie di regole semplificatorie che inizialmente dovevano valere per poche opere, quella lista era mostruosa, e quindi adesso c'è il problema di come superare questa situazione tra virgolette mostruosa. Devo dire che il Parlamento, su proposta del Parlamento, questo sottolineiamolo, nel nuovo codice appalti, eccolo qua, legge 50 del 2016, inserito il concetto di superamento della legge obiettivo. Cioè, preso atto che questo sistema è arrivato per noi a capolinea, per gli altri no, per i obiettivi, guardate che sono lì ancora tutti in pista, belli pensanti, a proporre le stesse cose. Però è stato importante che, a forza di battagliare, si è immaginata un superamento della legge obiettivo. È stato introdotto un concetto di progettazione qualificata con dei livelli differenti. La legge obiettivo era basata semplificazione, la via sul preliminare, i comuni a casa decide il CIPE d'intesa con le regioni, perché essendo in vigore il titolo quinto le regioni fecero ricorso e il parere diventò un'intesa, cosa che attualmente è stata peraltro respinta con il no al referendum, e quindi tale rimane anche oggi. Ce lo diciamo tra di noi, lo sappiamo perfettamente che le regioni non è che siano dalla nostra parte, e ve lo dimostrerò tra poco. In realtà questa sbornia di grandi opere e questa fame che è stata alimentata in questi 15 anni, ma ripeto molti anche prima, vede molti territori istituzionali, elettivi, assolutamente premere nella direzione sbagliata, cosa che spesso fa alimentare le liste e fa peggiorare il quadro complessivo. Che cosa accade adesso? Perché qua stanno scritte, il titolo della mia creazione è promesso realtà, poi naturalmente ve lo dico alla fine. fine Europa, che ovviamente. Allora, si dice, si fa un primo documento, documento pluriennale di programmazione, dovrà essere presentato entro il 18 aprile 2017, per cui per favore chi sta dentro le istituzioni segua queste cose e pressiamoli, perché il rischio è che la lista non sia così ristretta, in cui qui si dovrebbe cominciare a selezionare un po' di opere dicendo queste si fanno, queste non si fanno. Do già per scontato che gli ambientalisti non saremo contenti, però questo lavoro va fatto e va seguito con molta attenzione. Poi va aggiornato il piano generale dei trasporti e della logistica, perché nel 2001 il governo di centrosinistra, un attimo prima di andarsene, votò un ottimo piano generale dei trasporti e della logistica, anch'esso conteneva una lista, erano 15, non 400, metà non ci piaceva, insomma, sempre con complessità, però sicuramente dava, inseriva le opere dentro una strategia. Cosa servono queste opere? Solo chi le costruisce, servono anche i territori per muoversi meglio, il dissesto idrogeologico, servizi ai cittadini, insomma il tema edilizia di qualità è molto complesso. Infine, e questo va fatto entro fine 2017, infine linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche, il CIPE, il primo dicembre, quindi 10 giorni fa, ha preso atto di queste linee guida, che naturalmente se voi ve le leggete, io diciamo, naturalmente le sposo in toto, perché opere snelle, utili, condivise, poche, belle, cioè, c'è tutto. Il problema è poi la realtà. Quindi io voglio dare atto che il ministro Delrio, su input del Parlamento, risottolineiamo, sta facendo uno sforzo per superare quella situazione. Ma il pregresso, forze buone o cattive, ma comunque di valenza completamente differente, in realtà stanno premendo per annientare tutta quella che è il regime transitorio, perché naturalmente noi dobbiamo passare da una situazione consolidata, perché ci sono norme, contratti, insomma non è banale, sia ben chiaro, però il rischio è quella che la promessa non si traduca in realtà. Alcuni dati, giusto così flash, vado forte perché mi interessa dire più altre cose, giusto per chi non avesse il quadro. Questo è il 10° rapporto Camera Cresme ed ANAC sullo stato delle infrastrutture strategiche. Allora, rispetto alle 10 opere di cui parlava Lunardi nel 2001, siamo arrivati a 400 interventi per un costo complessivo di 362 miliardi, che naturalmente nessuno ha, questo è chiaro, né il pubblico né il privato. Quindi, è diventata una lista mostruosa che ogni passaggio territoriale, parlamentare, politico, la crisi, tende ad allungarsi invece che a spingersi. Di queste opere, 278 miliardi in termini di valore hanno avuto una qualche procedura, è stata messa la lista prioritaria, ha superato il primo livello preliminare di CIPE, è in procedura di via, è stata approvata, è in corso di realizzazione, insomma è in via di lavorazione o di realizzazione. Di queste 151 miliardi hanno avuto sicuramente un passaggio CIPE, quindi sono in uno stadio più avanzato. Guardate questa casella gialla, opere prioritarie 90 miliardi, 25 opere. Queste sono quelle, le famose 25 opere che Delrio ha messo, scusate, Delrio non esatto, il governo ha messo come allegato DEF, allegato infrastrutture al documento della programmazione economica sia 2016 che 2015. Quindi da 278 passiamo a 90, poi anche qui ce ne sono, poi dopo ci arriviamo, che non ci piacciono per niente, però sicuramente si è fatto un tentativo di procedere, tentativo però che al momento è sostanzialmente fallito e ve lo spiego tra poco perché. Questo è lo stato di attuazione, vedete il complesso delle opere, 278 miliardi, oltre la metà in progettazione, ultimate 10%. Insomma, capite bene che poi alcune sono in corso, alcune sono in gara, le cose sono molto cercate, ricorsi, alcune sono promesse, opere delle concessioni autostradali, poi su questo ci torniamo perché su quello c'è un elemento di complessità ulteriore. Allora, una cosa vi voglio dire, la norma ha un regime transitorio e dice quelle con obblighi giuridica, OGD, obblighi giuridica, giuridicamente vincolanti, non le possiamo sostanzialmente toccare. Però guardate, l'ammontare di quelle che hanno questi obblighi qui sembrano circa, addirittura, troppa tecnologia, mi perdo, addirittura più o meno equivalgono a 70 miliardi. E poi anche lì sono convinta che tu puoi sempre ragionare, anche con un costruttore o con un concessionario, se lo puoi fare, se sei forte, se hai un'idea, cercando di, magari, invece di fare un'opera sbagliata, fare costruire giusta, cioè gli accordi transattivi esistono in tutto il mondo. Le risorse disponibili, qui si vede bene che metà non ci sono, un altro quarto vengono da impegni delle concessionarie, che in realtà sono promesse. Tenete conto che la favola dei concessionari suona così: l'opera costa poco, rende tanto, ve la regaliamo noi, ve la facciamo noi, regaliamo il sospeso generale. Poi quando l'opera viene progettata, vengono definite, diciamo, i suoi contorni territoriali, i suoi pedaggi, la sua utilità, e quindi si vanno a fare i conti, poi c'è Roberto Puda spiegherà benissimo tutto questo. L'opera costa tanto, rende poco, per cui per favore, caro Stato, aiutami. E questo aiuto si chiama di volta in volta aiuto fiscale, si chiama valore di subentro alla fine dell'ammortamento. Fate attenzione, non c'è nulla di anomalo se lo Stato investe su grandi opere apertamente. Il problema è che molte opere vengono invocate e fatte partire dicendo tranquilli, noi non ci metteremo un euro, e poi man mano che la cosa avanza invece ci si mette un sacco di euro. E quindi questo è il tema forte, anche cioè che la promessa deforma la pianificazione e le scelte, non invece una scelta costi-benefici molto più fredda, molto più anche brutale, che però renda conto di quanto ci costa quel servizio se fatto in alternativa a un altro che magari costa meno e che ti serve anche di più. Ma questi confronti non sono mai stati invocati. Ecco, poi mentre naturalmente eravamo tutti, non dico contenti, ma insomma dei passetti in avanti si facevano verso un superamento della legislativa, è arrivato il regolamento Madia di semplificazione. Tra i vari regolamenti di semplificazione ai sensi della legge Madia ce n'è anche uno sul procedimenti amministrativi per insediamenti produttivi e opere di rilevante impatto sul territorio. Cioè, mentre invece cercava di dargli un freno complessivo, in realtà con un'altra mano lo stesso governo invece diceva quello che c'è scritto lì, cioè si fa una lista di opere anno per anno, questa lista di opere ha diritto a delle semplificazioni, la lista la può proporre chiunque, ma alla fine decide il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Tenete conto che già oggi, perché la stessa legge Madia ha semplificato la conferenza dei servizi, per decidere una grande opera, secondo la semplificazione, 5 giorni di convocazione, quella ordinaria, sto dicendo, 45 giorni di svolgimento, 90 giorni massimo, ed è stata una lunga battaglia, credo lo vedranno, ma anche da là ci sono, possono testimoniare, 90 giorni massimo per gli enti di tutela che non potevano essere bypassati. Tutto questo viene dimezzato, 2 giorni e mezzo per la convocazione, fate voi tutti i vostri conti. Ecco, siamo fuori da un campo, secondo me, di serietà, perché fare delle opere utili, snelle e condivise non si fa con dei processi di questo tipo. Quindi nel frattempo è diventato operativo anche questo provvedimento. Ha bisogno anche lui di decreti attuativi, non è immediatamente, però insomma intanto è lì, e se qualcuno al governo volesse poi applicarlo potrebbe cominciare a fare. Perché dico che si estende il regime transitorio della legge Bettina? Perché quando abbiamo visto che invece dei 278 miliardi stavamo ragionando su 90, quindi veramente un grande passo avanti, tra l'altro di cui metà sono infrastrutture urbane, metropolitane delle grandi città, quindi anche cose utili che vanno fatte e vanno completate. In realtà cos'è accaduto? Che qui due documenti, 2015 e 2016, non hanno perfezionato, c'è tutto un iter complicato ai sensi della legge obiettivo che prevede l'accordo e l'intesa in conferenza unificata Stato-Regione. Le regioni non hanno assecondato questa strategia di Del Rio di ridurre, e hanno fatto un parere abbastanza critico dove dicono: a noi non ci piace tutto questo prosciugamento della lista, io adesso traduco volgarmente, ma se io la prendo il documento è abbastanza così. Quindi, regione per regione, il ministro venga e ragioniamo cosa togliere, cosa mettere. Quindi questa roba così semplificata non va bene. Risultato, il ministro adesso che deve fare il governo, il MIT, il primo documento di programmazione pluriennale entro il 18 aprile si deve riferire non a questi due allegati infrastrutture prosciugati da 90 miliardi, ma all'ammontare di 278, e quindi, come dire, la battaglia tra i lupi è molto più accesa, e qui ci sono un sacco di opere. Ah, tenete conto, giusto per ridere, che tra queste opere non c'è il ponte sullo stretto, forse adesso quello si è rifondato, lo voglio sperare, ma insomma l'abbiamo fermato tre volte, ma siamo pronti anche a qua, non c'è il ponte. Quindi questo è il problema di fondo, che il Ministero dovrà fare questo documento, e purtroppo sì, per questo dico è un po' una promessa il superamento del legge obiettivo, perché fare una selezione su un bacino così ampio, voi capite che per quanto le toglie, per quanti ragioni, parti già molto svantaggiato. Ecco, questo è il ragionamento che voglio fare. Sì? Allora, in attesa del primo DPP, che è questo documento pluriennale di programmazione, in realtà alcuni progetti vanno avanti. Primo lotto del TIP e Parma Verona, che dopo se ne parlerà. Il primo dicembre è partita la procedura di valutazione di impatto ambientale del tratto Grosseto-Capaggio, e siamo tutti lì a dover fare osservazioni. Sono stati dati ulteriori finanziamenti a lotti del terzo banco Milano-Genova. Voglio anche dare atto, perché la correttezza e l'attenzione è importante, che il MIT ha fatto anche alcune cose buone. Per esempio la ex autostrada, cioè l'autostrada Orte Mestre, è diventata per fortuna adeguamento delle due superstrade, e questo. Quindi è in corso una project review, cioè una revisione di progetto interessante, e alcune battaglie, caso analogo statale Ionica 106, il nodo di Vicenza B, cioè dove delle opere erano ancora in progettazione un po' arretrata, è riuscito a dire che non si fanno quegli obbrobri del passato e si ripulisce. Però questo è accaduto solo, insomma, alla fine credo siano 5-6 opere su altre. Voglio fare un'osservazione sulla Torino-Lione, perché se ne è parlato. Anche la Torino-Lione, così dice il Ministero, nel tratto italiano è stata soggetta a project review, cioè alla fine hanno detto: non facciamo 3 miliardi e mezzo di lavori sul tratto Bardonecchia Torino, per intenderci, sul tratto italiano, perché lì tra qualche rettifica di tracciato, nuove tecnologie, aggiungiamo noi, cambio della domanda di traffico, ma questo non l'ho detto, l'infrastruttura va bene abbastanza, con qualche adeguamento va bene così con me. Ma la domanda è, e io l'ho fatto anche l'altro giorno, un convegno proprio organizzato anche col Ministero, ma se il tratto, chiamiamolo valle urbano, basta, dove c'è anche il trasporto pendolare, perché lì si somma tutto quello che passa, allora bisogna anche ragionare e rivedere il buco di valico. Invece la project review è stata fatta solo sul tratto italiano. Quindi questa idea di rivedere i progetti deve essere molto più estesa di quello che è stato fatto. Quindi abbiamo questo tema di scegliere davvero le opere, questo titolo utili, snelle e condivise, il titolo dell'allegato del ministro Del Rio, io lo uso molto anche qua davanti. Ecco, qui c'è una lista di criteri con cui secondo noi dovrebbero essere scelti gli interventi. Le città devono avere la priorità, decarbonizzare i trasporti, ridurre il gas serra, garantire accessibilità ai territori, e questo è un problema molto serio. Ormai noi abbiamo un'Italia di serie A collegati capoluoghi, e poi dei territori di serie B, ormai anche di serie C, che non arrivano nemmeno in stazione, e questo è un problema di coesione territoriale, non è un problema squisitamente ambientale, o lo è, perché noi l'abbiamo sempre inteso così. Quindi qui c'è un insieme di criteri che dovrebbero informare la scelta con cui nel primo DPP si va a scegliere qualche cosa. Infine voglio, e chiudo su questo, parlare appunto di territori e di città medie, perché noi ci concentriamo sempre sulle grandi città, qui siamo a Roma, ne abbiamo bisogno come il pane, però anche i territori medi, città medie, hanno dei drammatici problemi, e però ci sono anche delle idee nuove che si muovono, perché il rischio qual è? Anche per noi ambientalisti, che invece delle tante grandi opere, diciamo, vogliamo poche grandi opere. Cioè, il rischio potrebbe essere, non l'abbiamo mai detto, naturalmente. Allora, io vi voglio presentare questa ricerca, è fatta da degli urbanisti del Politecnico di Milano sul distretto ceramico di Sassuolo. C'è una pubblicazione, quella di Tizio. Perché è interessante? Perché si è preso questo territorio del distretto ceramico, che è fatto di disordine urbanistico, capannoni vuoti, degrado del territorio, dell'ambiente, le acque, le cave, insomma, quello è. Però è anche un oggetto di un certo interesse, perché lì, non so, c'è insediata, non so, che raccolta, cioè aziende che hanno il laboratorio Green Lab che fa la ceramica innovativa del futuro con esportazioni all'80%, quindi è un mondo di disastri, ma anche di scenari futuri anche abbastanza interessanti. Lì è previsto un progetto, un'autostrada, una bretella, Campo Galliano-Sassuolo, che è stata approvata tra l'altro di recente, mentre tutto si doveva fermare. Tutto questo studio dimostra che quei territori hanno bisogno di tutto tranne che di quella bretella. Hanno bisogno di trasformare, cioè adesso quelle righe che vedete è una vecchia ferrovia utilizzata sia per le merci che per gli orari, che si potrebbe trasformare in un treno tram per dare un servizio. C'è bisogno di percorsi ciclabili e pedonali, c'è bisogno di riqualificare i centri storici, c'è bisogno di mettere in sicurezza le strade che hanno un problema, soprattutto la pedemontana, perché passano comunque tir, c'è traffico. E quindi l'idea, la conclusione a cui voglio, con cui concludo, è questa. Se noi dobbiamo fare una miriade di opere, rigenerazione urbana, qualità urbana, interventi infrastrutturali locali, adeguamenti, tutto questo armamentario di cui stiamo parlando non ci serve, perché qui si parla solo di grandi opere, mediamente queste opere non stanno in questi grandi listoni, per quanto sia esteso e sbagliato, e quindi tocca ripensare completamente, cioè se la prospettiva del futuro è lavorare sull'esistente, riqualificare, mettere in sicurezza, adeguare, non consumare suolo, ridurre gas serra, cioè bisogna anche che facciamo uno sforzo innovativo per capire come i territori gli diamo una risposta a questa loro domanda, che naturalmente non è nemmeno il superamento della legge obiettivo, perché anche quella rischia di essere la coda di un processo appunto che viene, diciamo, dalla parte sbagliata, diciamo, della storia. Ecco, questo è il ragionamento che volevo condividere con voi, perché questo è uno studio fatto non da quattro ambientalisti un po' naif, come sicuramente mi ci metto anch'io, ma da professionisti che hanno ragionato su quel territorio, pongono un tema a tutti di come darci delle regole per far avanzare non il progetto giusto, quel mix di progetti giusti di cui i nostri territori hanno bisogno. Interessante e chiusa di dati, infatti le slide che io le papperò sicuramente mi servono per articoli che faremo nei prossimi mesi proprio a proposito del documento pluriennale di programmazione. E estremamente interessante anche perché alla pars destruens associa la pars costruens. Dunque, la scaletta del nostro convegno, diciamo che si conclude in base a quanto previsto, conclude la parte introduttiva e di ragionamento generale. Adesso inizieremo ad affrontare i casi particolari che l'Italia sta affrontando o ha affrontato di grandi opere controverse negli ultimi anni. Per cui, se ci sono domande a proposito di questi primi interventi generali, io credo che sia utile aprire un attimo un momento di confronto. Se c'è bisogno di chiarimento sulle relazioni fatte finora. A altrimenti meglio, perché così non guadagniamo un po' del tempo perso in introduzione, passerei a questo punto nella seconda fase del confronto. Noi affronteremo 5 casi emblematici, parleremo di Brevemì, del ponte sullo stretto, della famigerata Torino-Lione, dell'autostrada della Maremma e della Pipe Parma-Verona. Per esigenze logistiche dei relatori, tradotto, treni che partono prima, e oltre questo perché è, se non sbaglio, l'unica donna a intervenire, io darei prima di tutto la parola, se gli altri relatori sono d'accordo, ad Alessandra Agostino, che è docente di diritto costituzionale all'Università di Torino, che affronterà, e in questo senso quindi ci colleghiamo anche a quanto affermato da Madonati, continuiamo a parlare di TAF Torino-Lione per cercare di evidenziare i legami che ci sono tra lo sviluppo di questa grande opera e il rispetto dei criteri dei paradigmi democratici in quel territorio. Intanto noi cambiamo i cavalieri, Roberto Udo lo possiamo chiamare, poi dunque Stefano Lenzi è arrivato invece? Cesare Vacchelli, se vuole intanto poi avvicinarsi qui nel campo dei lavori. Prego, dottoressa Agostino, tanto anche per lei un quarto d'ora, poi l'avviso io quando manca. Grazie, io ringrazio molto la Fondazione Basso, anche la Fondazione Marca Etica, per aver dato vita a questo convegno e per l'invito. Scusa anche se dovevo scappare prima, ma appunto un problema di ultimo treno per Torino. Mi permetto di ringraziare però in maniera speciale anche in particolare il Tribunale dei Popoli, il Tribunale Permanente dei Popoli, e questo per aver dato voce e dato giustizia ai movimenti che si oppongono a questo modello delle grandi opere, e in specie al movimento NOTAV, la cui lotta è stata definita nella sentenza che ricordava prima Franco Ippolito, una lotta esemplare per l'azione in difesa dei diritti fondamentali, ed è una cosa che in Val di Susa è stata molto importante proprio per tutti i valsusini che si oppongono a questa grande opera. Un riconoscimento del loro ruolo quale sentinelle della democrazia. Venendo al tema, prima di focalizzarmi sul caso specifico della TAV, mi pare utile premettere un breve cenno a quelli che sono i molteplici interrogativi che le grandi opere in generale, poi ovviamente anche il TAV in particolare, pongono alla democrazia. In primo luogo direi che ad essere chiamata in causa quando si discute di grandi opere è l'essenza della democrazia, cioè la partecipazione. Quale autogoverno e concretizzazione diretta di quella che è l'identità governanti-governati, cioè come coinvolgere i cittadini, come garantire la loro partecipazione anche oltre i classici circuiti rappresentativi. E ancora, cosa fare quando queste istanze dal basso confliggono con le decisioni delle istituzioni rappresentative? Non solo, come risolvere i conflitti tra istituzioni a livello locale e istituzioni a livello nazionale? Cioè, entrano in gioco, quando si discute di grandi opere, i differenti profili della sovranità popolare e la natura a multilivello, se vogliamo, della democrazia. Ora, la sovranità popolare, io questo ci tengo a ricordarlo, è stato ricordato prima anche da Franco Ippolito, non si esaurisce nella rappresentanza, nelle istituzioni che derivano dalla rappresentanza, ma vive anche, possiamo dire, allo stato diffuso, vive nell'esercizio di libertà costituzionali come libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e nell'auto-organizzazione dei cittadini in comitati e in movimenti. La democrazia cioè vive di e in forme differenti, può essere declinata come rappresentativa, anche come diretta, partecipativa, deliberativa, dal basso. Ed è nella natura della democrazia vivere in queste forme differenti e anche confliggenti, perché la democrazia è conflitto, la democrazia è fondata sul pluralismo e riflette quella che è la complessità della società, quindi non può che avere questa natura conflittuale. Ecco, quanto detto trova ovviamente un riscontro anche nel caso delle grandi opere. E proprio nel caso delle grandi opere risulta evidente come opporre e realizzare un confronto, una compartecipazione tra i vari livelli della democrazia rappresentativa, istituzioni nazionali e istituzioni locali, senza dare per scontato che il livello, diciamo, territoriale più ampio debba prevalere e che l'interesse generale sia l'interesse rappresentato dalle scelte compiute a livello nazionale. Proprio il caso della Val di Susa dimostra anzi il contrario. Forse per indagare quale può essere l'interesse generale occorrerebbe fare riferimento ad esempio ai valori della Costituzione, che giusto adesso, diciamo, hanno ricevuto un ulteriore riconoscimento con il referendum. Cioè l'interesse generale non necessariamente è quello portato avanti dalla maggioranza. E in ogni caso occorre sempre tutelare nella dialettica maggioranze e minoranze anche le minoranze, perché se è vero che la democrazia nella sua forma rappresentativa assume il principio di maggioranza quale strumento di funzionamento, e la democrazia deve essere anche sempre ben conscia dei rischi che il principio di maggioranza trascina con sé, quella che è la tirannia della maggioranza, come la già la chiamava Tocqueville, e quindi di prevedere dei meccanismi di tutela delle minoranze. Però non sono solo questi due elementi, cioè il carattere multilivello dei processi decisionali e le dinamiche maggioranza-minoranze a entrare in gioco, ma anche la partecipazione allo stato spontaneo e quindi un ascolto effettivo dei movimenti, una partecipazione che sia sostanziale, non solo procedurale. Cioè una partecipazione effettiva che non si traduca in un mero passaggio, possiamo dire, burocratico o propagandistico, che non si propone in realtà di ascoltare effettivamente il dissenso, ma semplicemente di prevenirlo in molti casi o di anestetizzarlo. La partecipazione deve essere invece effettiva. Ultimo profilo sul quale le grandi opere interrogano la democrazia. Si possono leggere le grandi opere come cartina di tornasole di quelli che sono i rapporti tra economia e democrazia, in quanto molto spesso le grandi opere mostrano la prepotenza dei grandi interessi economico-finanziari e la loro capacità di influenzare il diritto e i diritti, come il Tribunale Permanente dei Popoli ha riconosciuto in molte delle sue sentenze degli ultimi. Ecco, quindi le grandi opere interrogano la democrazia sotto molteplici profili, interrogano l'essenza della democrazia e interrogano la democrazia nel suo rapporto fondamentale con l'economia. Venendo al caso specifico della TAV, come noto la realizzazione della Torino-Lione è stata osteggiata ormai da più di 25 anni, da un movimento molto forte, un movimento effettivamente plurale, un movimento trasversale, un vero e proprio movimento popolare. Quali sono state le risposte della democrazia di fronte a questo movimento? Beh, tanto parto da un inciso. Da parte del movimento c'è stato un forte esercizio di democrazia. Il movimento ha cercato a più riprese di utilizzare tutti gli strumenti democratici a sua disposizione per farsi ascoltare. Quindi petizioni alle istituzioni nazionali, petizioni alle istituzioni europee, presidi, manifestazioni, quindi esercizio della libertà di riunione, della libertà di associazione, della libertà di manifestazione del pensiero, ricorsi agli organi giudiziari, amministrativi, ordinari. E qual è stata però la risposta delle istituzioni di fronte a tutta questa attività, tutta questa partecipazione, cioè tutto questo esercizio di democrazia? Ovviamente in questa sede, in 15 minuti, non posso approfondire tutte quelle che sono state le linee di tensione e le non risposte delle istituzioni, per cui vorrei soffermarmi in particolar modo su due profili che secondo me sono importanti. Due delle strategie utilizzate: una è una negazione di democrazia, cioè un tentativo di anestetizzare il dissenso, e l'altra una violazione proprio, diciamo, più evidente della democrazia, cioè la militarizzazione del territorio valsusino. Partiamo dalla prima, la cosiddetta anestetizzazione del dissenso. Mi riferisco in particolare ad un organismo che è stato istituito come sede di dialogo, peraltro è stato istituito come sede di dialogo nel 2005, quando già il movimento era molto forte e diciamo anche la realizzazione dell'opera era già in fase avanzata di progettazione, ed è l'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione. Viene creato dal governo non a caso dopo una grandissima manifestazione popolare, la cosiddetta liberazione di Venaus, che era uno dei territori dove c'erano dei tanti presidi del movimento, e si pone come organo di confronto, si dice, per tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico, si dice anche per dare una risposta alle preoccupazioni espresse dalle popolazioni della valle. È un organo, innanzitutto, questo è un primo problema, un organo top-down, cioè un organo istituito dall'alto. L'osservatorio al suo interno contiene dei rappresentanti delle istituzioni a livello nazionale e a livello locale, degli esperti designati dai soggetti imprenditoriali coinvolti, ma è un luogo di confronto che si pone come solo istituzionale. Cioè tutta la partecipazione, diciamo, auto-organizzata, spontanea dei comitati è tagliata fuori dall'osservatorio. I nostri componenti, nella maggior parte, rappresentano dei soggetti che in più occasioni si sono espressi a favore della realizzazione della linea oggetto di contesa. Pur essendovi tra le priorità, diciamo, dell'osservatorio, l'approfondimento delle potenzialità, si dice, della linea storica e delle caratteristiche essenziali delle possibili alternative di tracciato. Oltretutto, sin dalla Costituzione emerge il ruolo guida che ha assunto all'interno dell'osservatorio dalle istituzioni nazionali e le difficoltà per le amministrazioni locali di far valere la propria posizione e anche di vederla correttamente rappresentata all'esterno. Ci sono varie forzature nel percorso. Il governo, tra l'altro, quando si rende conto di non riuscire, diciamo, a manovrare come vorrebbe l'osservatorio, ricorre allora alla conferenza dei sindaci come organo, diciamo, a geometria variabile più duttile, in altri casi alla conferenza dei servizi, forza i risultati inventando sostanzialmente un accordo, che è il cosiddetto accordo di Pracatinà, che però in realtà non risulta firmato dagli amministratori locali. Cioè ci sono tutta una serie di forzature nel percorso per cui varie istituzioni locali abbandonano l'osservatorio, e già questo dimostra il fallimento dell'osservatorio come sede di assunzione condivisa, partecipata, di scelte, al di là del fatto che sia una sede solo, ripeto, istituzionale. Fino ad arrivare, cercando di farla breve, al 2010, quando esce un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui si ridefinisce la rappresentanza in seno all'osservatorio, seguendo un doppio criterio. Primo criterio oggettivo, cioè l'appartenenza dei comuni agli ambiti internazionali territoriali interessati dalle varie alternative di tracciato, e qui vengono ricompresi anche tutti i comuni, diciamo, più che della bassa valle, ancora del territorio ancora più vicino a Torino. Dopodiché si dice però che si elabora un criterio anche soggettivo, per cui vengono ammessi solo i comuni ricadenti in tali ambiti che dichiarino esplicitamente la volontà di partecipare alla migliore realizzazione dell'opera. Cioè, è evidente a questo punto che cos'era l'osservatorio. Non è certo un organo dove si discute sul se dell'opera, ma tutt'al più su qualche cosa relativo al come dell'opera, e con questo l'osservatorio è disvelato quella che era la sua natura. Dopodiché, notizie di questi giorni, è uscita anche del Comune di Torino all'osservatorio, nel 2014 era uscita di Susa, Condove, altre città della valle, quindi è stato progressivamente svuotato, diciamo, di l'osservatorio. Ma è chiaro che questo non è stato un tentativo di garantire quella partecipazione di cui parla anche la Convenzione di Aarhus, che sarebbe tra l'altro un obbligo internazionale, un vincolo internazionale per il nostro ordinamento, ma semplicemente un luogo, diciamo, dal lato di un'operazione di marketing per far finta di aprire una sede di dialogo, e dall'altro lato un tentativo di anestetizzare il dissenso, facendo anche qui finta di aprire una sede dove le istituzioni potessero confrontarsi. Quindi non è un modo per accogliere il conflitto, diciamo, attraverso un confronto effettivo, bensì un modo per cercare di indurre, di forzare la formazione di un consenso, anche solo l'immagine di un consenso, perché questo alla fine ciò che conta, in ordine a una decisione che in realtà è già assunta. Quindi in questo senso c'è stata senza dubbio una negazione di democrazia. Un'altra strategia utilizzata in Val Susa, e cui vorrei farvi cenno, invece, è la militarizzazione del territorio. Cioè una chiusura di spazi fisici che diviene poi emblema anche della chiusura di spazi politici, attraverso in particolar modo l'uso di due tipi di provvedimenti: da un lato le ordinanze prefettizie e dall'altro la qualificazione dell'area come area di interesse strategico nazionale. L'ordinanza prefettizia, l'iesmo è un vecchio strumento che ancora del Regio Decreto 1931 del 1773. un potere amministrativo, ma che è in grado di provvedere anche in via generale ed astratta. Per cui a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica il prefetto può ordinare delle ordinanze nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica. È un potere che presenta di per sé vari profili di legittimità costituzionale, è un dispositivo tra l'altro di un'altra era, di un altro ordinamento, dispositivo dell'era fascista. È un provvedimento con cui sostanzialmente il prefetto può incidere su libertà anche costituzionalmente garantite, introducendo delle limitazioni non contemplate dalle Costituzioni, in deroga alle leggi, e sulla base di concetti come l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che sono poi facilmente conformabili alle logiche di potere, proprio perché è molto ampio nella loro formulazione. Sono ordinanze che dovrebbero essere adottate comunque in casi di emergenza e quindi essere caratterizzate necessariamente da temporaneità. Ora, la prima di queste ordinanze è stata adottata il 22 giugno 2011, l'ultima al momento, perché poi si susseguono, è destinata a rimanere in vigore fino al 31 gennaio 2017. Sono passati più di 5 anni, non si capisce bene quale sia un'urgenza che possa durare tutto questo tempo. È chiaro che non è più una situazione di urgenza. Tra l'altro, una deroga si è consentita proprio perché è temporanea, stabilizzandosi, diciamo, veicola con sé una violazione ancora più grave in realtà del dettato costituzionale. Quindi la valutazione delle esigenze di sicurezza dovrebbe poi in questo caso essere particolarmente rigorosa, perché si incide sull'esercizio di diritti fondamentali. Queste ordinanze limitano la libertà di circolazione in alcune aree della Martusa, quindi incidono sulla libertà di circolazione, articolo 16 della Costituzione, ma non solo, in via indiretta incidono anche sull'espressione della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, articolo 17, 21 della Costituzione, cioè incidono su quello che è il diritto di esercitare democrazia. Quindi ad essere preclusa non è solo l'agibilità di luoghi fisici, l'area del cantiere, ma anche di spazi politici, quindi si incide sulla sovranità popolare, su quella partecipazione effettiva di cui ragiona l'articolo 3 della Costituzione italiana. Queste ordinanze si rivolgono a una pluralità indeterminata di persone attraverso l'utilizzo della formula a chiunque o divieti impersonali, ma evidentemente i chiunque sono gli appartenenti al movimento NOTAV. E che sia la protesta stessa la base delle ordinanze è evidente in alcune ordinanze, laddove in relazione ai motivi di sicurezza si cita la possibilità che si tengano future manifestazioni di protesta. Nemmeno che queste possano presentare problemi di ordine pubblico, è sufficiente la presenza di future manifestazioni di protesta. Quindi è chiaro che la chiusura è una chiusura fisica, ma è una chiusura anche politica. Cioè il problema di per sé è l'esercizio di diritto di riunione, di libertà di manifestazione del pensiero contro la decisione di realizzare una determinata opera. Quindi dietro questa sicurezza che in queste ordinanze è declinata come sicurezza del cantiere, delle maestranze, eccetera, appare in realtà quella che è la messa in sicurezza e l'intoccabilità di scelte politiche. Per cui la sicurezza dovrebbe essere sicurezza dei cittadini, non sicurezza delle autorità. Qui invece la garanzia, diciamo, dell'incolumità fisica dei lavoratori del cantiere, di per sé ovviamente legittima, si confonde poi nella tutela di interessi politici ed economici particolari, cioè di una parte, anche se politicamente di maggioranza. In questo senso l'interesse generale, dicevo prima, non sta necessariamente nelle decisioni di maggioranza. A farne le spese ovviamente è la democrazia, quella democrazia che invece tutela le minoranze, e quella democrazia che ha la sua essenza, lo ricordava magistralmente Bobbio, proprio nella tutela del dissenso, che è essenzialmente dissenso. Quanto all'ordinanza viene proposto un ricorso al Tar Piemonte che lo respinge. Nel frattempo l'intoccabilità della linea Torino-Lione viene confermata attraverso l'adozione di un altro provvedimento, questa volta di intervenire è il Parlamento, con la legge 183 del 2011, che definisce l'area del cantiere per i lavori del funicolo area di interesse strategico nazionale. È una locuzione di forte impatto politico e mediatico, che ha fatto la sua comparsa nell'emergenza rifiuti in Campania. Prevede, diciamo, una punibilità per chi entra abusivamente in queste aree di interesse strategico nazionale, con un aggravamento sostanzialmente di pena. Ma si accompagna la previsione di quest'area di interesse strategico nazionale all'utilizzo poi delle forze armate nel controllo del territorio, quindi la militarizzazione del territorio, che è una costante nella realizzazione delle grandi opere. Perché, come abbiamo avuto occasione di vedere anche con la sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, le strategie utilizzate sono poi simili, per cui esiste un vero e proprio modello grandi opere. E questa tensione tra grandi opere e democrazia è proprio, argomentata molto bene nella sentenza citata prima della Franco Ippolito del Tribunale Permanente dei Popoli. In particolare vorrei ricordare due passaggi chiave della sentenza. Nel primo passaggio si riconosce che in Val Susa sono stati violati i diritti relativi alla piena informazione sugli obiettivi, le caratteristiche e le conseguenze del progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di partecipare direttamente attraverso i rappresentanti istituzionali nei processi decisionali relativi alla convenienza e eventualmente poi al disegno e alla costruzione della TAV. Secondo passaggio. Si ragiona dell'esistenza di un modello consolidato di comportamento nella gestione del territorio e delle dinamiche sociali nella realizzazione delle grandi opere, un modello nel quale i governi sono al servizio dei grandi interessi economico-finanziari, nazionali e sovranazionali, delle loro istituzioni, un modello dove potentissimi interessi di grandi attori economici strumentalizzano a proprio ed esclusivo interesse le risorse istituzionali del sistema democratico. Ecco, questi due passaggi citati secondo me evidenziano molto bene quelli che sono due elementi cardine delle tensioni tra democrazia e grandi opere, cioè la violazione del diritto di partecipazione da un lato, con connessa repressione del dissenso, violazione della libertà di riunione, di manifestazione del pensiero, eccetera, e dall'altro lato l'imposizione dell'economico sul politico. Cioè due elementi che, ampliando il discorso, mi paiono emblematici di quelli che sono in realtà i più agguerriti fronti di attacco alla democrazia in senso più ampio. Quindi il modello delle grandi opere, come emblema di quelle che sono le tensioni che oggi attraversano in maniera più ampia la democrazia. Vorrei però chiudere con una piccola nota positiva. Nel senso che le grandi opere, è vero che da un lato smascherano, come abbiamo visto, la democrazia, cioè mostrano come la democrazia non dia effettivamente ascolto ai cittadini, come la democrazia sia sostanzialmente suddita rispetto al potere economico. Però nei movimenti invece di opposizione e di resistenza alle grandi opere appare invece quella che è l'essenza della democrazia, cioè l'esercizio diretto di partecipazione, nonché la sperimentazione di forme inedite anche di democrazia. Cioè le persone che si mobilitano contro il TAV, come le altre grandi opere, come le ha definite il Tribunale Permanente dei Popoli, sono sentinelle che lanciano l'allarme, delle sentinelle della democrazia. Ecco, il rapporto tra grandi opere e democrazia è anche questo. Grazie, professoressa Agostino. È estremamente stimolante quello che ha detto. Mi viene in mente una cosa, non so se è una semplificazione giornalistica, nel caso me ne scuso, però mi sembra che, da come ha descritto l'approccio alle grandi opere nel nostro paese, mi sembra che sia in qualche modo questa esigenza di velocizzarle, di farle necessariamente, se una maggioranza decide, di farle in fretta perché non possiamo confrontarci più di tanto, e i diritti delle minoranze sì, ok, possiamo farli parlare, ma in realtà poi il dissenso è compresso, mi sembra quasi che siano figlie dell'approccio alle riforme istituzionali e anche al dibattito sulla legge elettorale, no? Quando si dice che bisogna dare premio di maggioranza alla maggiore minoranza, e forse quindi risolvere il problema delle grandi opere significa anche ripensare ai sistemi di formazione del Parlamento, quindi tornare ai valori più alti del proporzionale, in cui uno si deve necessariamente confrontare e magari trovare compromessi, non al ribasso, e accordi basati sul consenso, È una semplificazione o no? No, a me sembra una lettura molto, molto interessante. Quello che traspare dalle grandi opere è proprio questo approccio, di tipo decisionista, basato anche sulle su una acclamata, diciamo, efficienza, ed è lo stesso modello che possiamo ritrovare dietro anche le riforme istituzionali, come dietro le riforme istituzionali possiamo trovare anche la negazione, la volontà, per fortuna, perché le riforme costituzionali non sono passate, la volontà di negare quanto più possibile spazio ad una partecipazione effettiva, spazio di senso, anche come in questo caso come minoranze parlamentari, cioè la volontà di creare sempre più un meccanismo di decisione a discapito di quella che è la rappresentanza e la partecipazione, cioè gli spazi alla fine di sovranità popolare, per cui mi pare che rimane il fatto che se dobbiamo superare questo rischio dobbiamo tutti quanti, anche da posizioni diverse, tornare a parlarci e a guardarci negli occhi e a saperci confrontare senza pensare che una posizione sia necessariamente il verbo incarnato, altrimenti rischiamo di non trovare compromessi. Recuperare l'idea del conflitto democratico e del confronto che può portare a un compromesso anche in senso alto del termine, che è stato quello dell'Assemblea Costituente, quindi recuperare questa idea, però che esiste un conflitto, che esiste un conflitto tra il lavoro e la soluzione, è un conflitto democratico. L'altro tema interessante che ha sollevato è il fatto dell'imposizione dell'economico sul politico, perché molto spesso esistono dei flussi economici che spingono e hanno la forza una forza coercitiva per imporre determinate scelte politiche, flussi economici, flussi finanziari, anche questa è una mia dedicazione professionale, perché per il giornale per cui scrivo ci occupiamo molto spesso di questi flussi e di quanto queste lobby economiche e finanziarie sono potenti e riescono a superare i dubbi democratici eventualmente espressi dalle amministrazioni locali e nazionali. E a tal proposito quindi chiamerei il prossimo relatore, Roberto Cuda, che è autore, coautore del libro Anatomia di una grande opera, La vera storia della breve mi, perché l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano è esemplificativa di come vengono spesi i soldi delle strutture legate al sistema del project financing e quali sono i costi per la collettività. Anche per te un quarto d'ora, vai. Grazie. Allora faccio una piccola premessa doverosa per dire che non c'è ovviamente alcuna delinità di tipo diffamatoria nei confronti di questa povera infrastruttura che è appunto la direttissima Brescia-Bergamo-Milano, meglio nota come Brevemi, ma ci interessava invece raccontare una storia che è un emblema, è un prototipo, quindi avremmo potuto scrivere, anziché Brevemi, Pedemontana, Cremona-Mantova, Tirreno-Brennero, Broni-Mortara, e avremmo ritrovato più o meno gli stessi meccanismi, le stesse aziende, perché poi nel mondo dei grandi appalti le società, quelle dominanti, quelle che contano, sono poche, sono una decina, sono sempre quelle, e non cambiava granché. Quindi, come dire, abbiamo raccontato questa storia perché ci racconta bene il mondo dei grandi appalti. E poi Brevemi è forse la prima vera grande opera nell'era della legge obiettivo, no, sicuramente lo è sul fronte autostradale. E quindi, come dire, cioè parliamo di un'infrastruttura fatta e finita, quindi portata a termine, non solo in via di progettazione, non solo cantierata, ma finita, operante e con tutta la strumentazione legislativa più avanzata, con tutti i crismi della finanza di progetto, e poi Brevemi è un'autostrada. Non so se è chiaro, negli ultimi 40 anni diciamo la rete autostradale è cresciuta del 10-15%. Si trattava per lo più di adeguamenti, di opere complementari. Brevemi è un'altra cosa. Quindi, come dire, c'è stato un cambio di marcia evidente. E poi hanno fatto la TEM, la tangenziale a sistema di Milano, e poi stanno facendo la pedemontana, e sarà interessante capire cosa succederà, quindi come andrà a finire un po' questa storia, soprattutto sul versante economico-finanziario. E se noi leggiamo il piano regionale della Lombardia, noi insomma nei prossimi anni vedremo circa 330 chilometri di nuove autostrade su 715 di dotazione esistente, quindi un aumento del 50% della dotazione autostradale in una regione che è già fortemente infrastrutturata e fortemente urbanizzata. Cioè sembra di tornare un po' agli anni 60, no, che erano gli anni, diciamo a cavallo, gli anni 50-60, in cui si facevano le grandi opere, si facevano le autostrade, ma perché c'era una domanda di infrastrutture, cioè l'economia galoppava. Insomma, oggi è cambiato il mondo, e però, come dire, ci si ostina in qualche modo a proseguire un po' su questa strada. Quindi la Lombardia è un po' l'epicentro, cioè di una colata di cemento e di asfalto come non se ne vedevano negli ultimi 40 anni. E ha funzionato. Insomma, noi abbiamo sotto gli occhi la appunto direttissima Brescia-Bergamo-Milano e anche una parte della pedemontana che è fortemente sottodimensionata rispetto alle previsioni. Cioè ci si aspettava 100, siamo a meno della metà. Cioè quindi abbiamo dei flussi di traffico che sono inferiori alla metà di quanto previsto nell'ultimo piano finanziario, cioè 2014. Brevemente, due piani finanziari, uno del 2010, prima della crisi, e uno del 2014 dopo la crisi, cioè che ha portato delle correzioni. Ecco, rispetto all'ultimo piano finanziario, quindi quello già corretto dai flussi di traffico effettivi, noi siamo a meno della metà. Quindi, allora noi ci potremmo chiedere perché. Questa è la domanda principe, ma non solo perché siamo a meno della metà, ma perché l'hanno fatta la Brevemi. Allora qui dobbiamo smontare un po' il meccanismo. Allora, diciamola così, tutto ruota intorno alla cosiddetta finanza di progetto, insomma detta un po' in inglese project financing, che è un termine che abbiamo inventato noi in realtà. Che cos'è? Un meccanismo molto semplice, cioè c'è una società esterna che costruisce materialmente l'autostrada e si ripaga attraverso i pedaggi. E fino a poco tempo fa e tutt'oggi è considerata un po' la panacea di tutti i mali, un po' l'uovo di Colombo, no? Cioè finalmente grandi opere senza soldi pubblici. È andata così? No, non è andata così. Allora, diciamo per due motivi. Il primo è congiunturale, perché noi ci troviamo in mezzo a una crisi che ormai è diventata permanente, no? Perché è anche difficile ormai parlare di crisi, e quindi è un'inversione dei flussi di traffico, che è una cosa che non era mai avvenuta nella storia italiana. Il traffico è sempre cresciuto in Italia, tranne la parentesi della crisi petrolifera a metà degli anni 70, ma insomma abbiamo sempre avuto il segno più. Dal 2008 è cambiato il mondo, quindi 2007 la crisi, 2008 le prime avvisaglie, 2009 calo dei flussi di traffico, con un tempismo quasi perfetto nel 2009 aprono i cantieri della Brevemi, 2010 così, 2011 una botta pazzesca, quindi abbiamo un calo consistente su tutta la rete nazionale. Questo ha fatto saltare il banco, perché poi le banche appunto hanno chiuso i rubinetti, si sono fermati tutti i progetti autostradali in Italia, tranne in Lombardia. E abbiamo avuto Brevemi, Pedemontana, tangenziale sistema con i risultati di oggi. Altro aspetto è che insomma non ha funzionato la finanza di progetto, anche perché insomma, c'è un problema di regole. Cioè, se noi spulciamo nei contratti di convenzione, nelle concessionarie, noi troviamo sempre, diciamo così, la norma salva concessionaria, chiamiamola così. Per cui se le cose vanno male, interviene lo Stato. Quindi o direttamente attraverso un aumento del contributo pubblico, o aumentando la durata della concessione, o aumentando le tariffe. Queste sono più o meno le tre leve. La Brevemi doveva essere pagata interamente dai privati, noi poi abbiamo avuto invece un contributo pubblico di 330 milioni a fondo perduto, perché sennò i conti non quadravano. Abbiamo aumentato la concessione da 19 anni a 26 anni. Diciamo due parole sui conti di Brevemi. Quanto è costata la Brevemi? 1 miliardo e 7, 62 km di autostrada, con gli oneri finanziari e l'IVA arriviamo a 2 miliardi e 4. Di questi soldi, cioè quindi, allora, 330 milioni contributo pubblico. A fine concessione Brevemi avrà diritto a 1 miliardo e 250 di buona uscita. Quindi 330 più 1 miliardo e 2 abbiamo coperto praticamente i costi di costruzione. Quindi gli automobilisti adesso stanno pagando gli interessi alle banche e l'IVA, gli oneri finanziari. Interessi alle banche, che sono principalmente due, sono due banche pubbliche, che sono Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea per gli Investimenti. Allora, dove sta il rischio? Quindi c'è uno svuotamento del rischio imprenditoriale, evidente, chiaro. Allora abbiamo già una prima risposta sul perché, cioè perché si fa, perché si fanno le grandi opere infrastrutturali, perché si fanno le autostrade. Non è sufficiente perché stiamo in un quadro macroeconomico estremamente rischioso. Allora aggiungiamo un altro tassello. E dobbiamo, come dire, analizzare la filiera, cioè chi è il primo beneficiario di un'infrastruttura di questo genere? Le banche? No. I costruttori? Sì. Sono i costruttori, cioè questo è il primo vero grande beneficiario di queste opere infrastrutturali. Perché? Perché conviene farle nel momento in cui l'appalto si incassa a prescindere dal traffico. Ci può essere anche poco traffico, ma i soldi si incassano sull'appalto. Questo è vero soprattutto in Italia, dove concessionario e costruttore sono praticamente la stessa cosa, cioè chi gestisce e anche chi costruisce. Questo spiega tante cose, e questo è un problema. Perché alla fine l'autostrada conviene farla, anche se non rende, anche se ha poco traffico, perché si incassa dalla costruzione e dalla manutenzione. Sono tanti soldi. Chi sono i costruttori di Brevemi? Sono tre, cioè i general contractor sono tre: Pizzarotti, Unieco, CCC. Cioè, Unieco CCC sono due cooperative di Legacoop. Allora, sono i maggiori azionisti, tra i maggiori azionisti della concessionaria, cioè concessionario e costruttore si sovrappongono. Quindi, chi fa la manutenzione? Questa è una bella domanda. Chi farà la manutenzione? Noi sappiamo che Brevemi ha addirittura firmato un contratto con una società creata ad hoc, composta dagli stessi azionisti della Brevemi S.p.A. che si sono già accaparrati la manutenzione per i prossimi 20 anni. Costo dell'operazione 320 milioni, cioè più o meno i soldi che abbiamo dato noi nel contributo pubblico. Chi sono gli azionisti di questa società? Gavio, Pizzarotti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, dove sta il business? lo ripeto per la terza volta, nella costruzione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria. C'è poi un ultimo elemento, la politica. Allora, se tutto, come dire, se tutto questo processo funziona, qualcuno potrebbe dire, va bene, ma allora dove sta la politica? Cioè, qual è il luogo della politica? Cioè, se noi avessimo una politica che fa la politica, cioè un governo che governa, non ci sarebbe tutto questo problema, perché in fin dei conti, come dire, si potrebbe porre dei veti, si potrebbe decidere, si potrebbero stabilire delle priorità, si potrebbero chiudere i rubinetti dove vanno chiusi. Allora, questo non avviene, diciamo, per due motivi. Il primo è perché abbiamo un sistema di regole estremamente fragile e sfilacciato. Il codice appalti, il vecchio codice appalti, che sono 270 articoli, 38 allegati, è una normativa estremamente complicata. Il codice appalti è stato oggetto di 600 modifiche negli ultimi 10 anni, è oggetto di 6.000 ricorsi, è una normativa complicatissima, non so se qualcuno l'ha mai letta. Non si capisce niente, perché sono tutti comma, sottocomma, richiami di leggi, di modifiche, eccetera, eccetera. Cioè, in questo magma legislativo nasce la Brebelli, nasce la Pedemontana, che ha buon gioco, perché si può tirare, come dire, il carro legislativo da una parte e dall'altra. E poi, insomma, impianto normativo fragile. In Italia non esiste ad oggi un piano nazionale dei trasporti, quindi questo è un problema. Cioè, chi stabilisce le priorità? Se non abbiamo obiettivi, non sappiamo quali sono le priorità, vale tutto, è tutto sullo stesso piano, passa qualunque progetto. Non si fanno analisi costi-benefici indipendenti, questo è un bel problema. Chi stabilisce se un'opera si deve fare oppure no? Ci deve essere un'analisi costi-benefici seria, ben fatta, con parametri trasparenti, verificabili, accessibili. Questo non avviene, perché le analisi le fanno direttamente i concessionari, cioè sono loro che pagano delle società per fare le analisi costi-benefici. Guardate, c'è un documento dell'ANAC del settembre 2015 che spiega come vanno fatte le analisi costi-benefici. Ecco, noi facciamo esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto. E poi, insomma, ultimo elemento, ce lo dobbiamo dire, allora, il mondo del cemento e dell'asfalto è il primo grande finanziatore della politica. Questo è un fatto, ancorché opaco, perché il finanziamento privato della politica in Italia è quanto di più opaco esista. Chi sono i finanziatori privati della politica? Non lo sappiamo. Abbiamo informazioni frammentarie, confuse, però questo è un nodo che, insomma, prima o poi dobbiamo sciogliere. Noi nel libro inchieste abbiamo riportato per filo e per segno tutti i passaggi, tutti i finanziamenti, chi ha preso cosa, chi ha dato cosa, ma per dire che ci sono anche cose interessanti, cioè delibere CIPE che vengono approvate contestualmente all'erogazione di finanziamenti a partiti del centrodestra, ma anche del centrosinistra. Quindi, come dire, finché non sciogliamo questo nodo, non ce la si fa. Non ce la si fa, perché il politico che riceve il finanziamento in modo opaco, poi deve firmare le delibere, deve firmare le delibere del CIPE, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti, e poi ti voglio vedere, no? Quindi, come dire, è un nodo che dobbiamo sciogliere, altrimenti noi ci troveremo Brebelli 2, Brebelli 3, perché è un meccanismo che si autoalimenta e che alimenta tutti gli anelli della filiera, quindi politici, costruttori, concessionari, banche un po' meno, ma insomma questo, diciamo, è il giro che si chiude. Io chiuderei qui. Grazie. A chi non l'ha letto consiglio questo libro sulla quale non lo conosco, perché poi Roberto ha scritto per Valori un servizio qualche mese fa, e visto che hai interrogato in modo così diretto il mondo politico, io visto che Loredana so che ha degli impegni istituzionali, succede fra un po', se vuoi ti farei anticipare l'intervento, perché mi sembra giusto che ci possa essere una voce che è attualmente in Parlamento, Loredana De Petris, capogruppo al Senato di Sinistra Italiana, per dare una sua valutazione. Sì, è acceso. Sì, la politica è stata chiamata in causa da Roberto Cura, non cui ho apprezzato anche un altro lavoro, sempre sulla strada, che è stato molto importante per il lavoro tra l'altro che noi abbiamo fatto in Parlamento. E allora io voglio dire due cose. Noi siamo, avevamo salutato ovviamente abbastanza favorevolmente il fatto che finalmente si diceva con chiarezza in tutta la legge delega per il nuovo codice degli appalti il superamento della legge obiettivo. Ma come ha dimostrato però prima nella puntuale relazione Anna, questo regime transitorio della legge obiettivo in realtà è quel transitorio che sembra, diciamo, non che continua ad alimentarsi. Questo è il punto. Ma in tutto questo, però uno poteva anche dire sì, certamente c'è un periodo di transizione, perché è normale, è evidente. Il fatto che parallelamente al lavoro che si stava facendo sul codice degli appalti e anche sulla revisione che in parte, diciamo, nel periodo appunto ha prodotto, asciugando anche in qualche modo, io ricordo il dibattito al Senato, lui concordava anche delle repliche su quello che noi avevamo chiesto, perché noi avevamo chiesto subito, immediatamente, Anna lo sa, che si fosse ancora più chiari sulla legge obiettivo, ma che soprattutto si asciugassero tutto lo sterminato elenco del CIPE, perché per noi quella era, diciamo, in qualche modo la priorità a quel punto. E io ricordo nelle repliche che il ministro Del Rio su questo, non so, aveva dato ampie garanzie, in parte, diciamo, questo è accaduto. Il problema è che era partito un altro carro nel frattempo, un altro vagone, che appunto sempre Anna sottolinea, ma che noi, con cui noi adesso dobbiamo fare i conti, e che è la riforma della pubblica amministrazione della Madia, che è una di quelle riforme. Cioè, l'attenzione di questi tre anni è stata molto concentrata sul Jobs Act, per carità, sulla buona scuola, per carità, sullo Sblocco Italia. Contemporaneamente c'è stata poca attenzione anche nel nostro mondo su quello, se non una cerchia più ristretta, su quello che stava accadendo invece con la riforma della pubblica amministrazione, perché da lì una questione generale, poi entro nel particolare, che ha riguardato il fatto che in realtà con quella riforma si è messo nei fatti in discussione, diciamo, un principio di terzietà della pubblica amministrazione, e questo ha delle conseguenze poi dirette per quanto riguarda poi la questione delle opere. E allora, le modifiche della conferenza dei servizi. Non era mai accaduto, no, che si introducesse il silenzio, ci siamo dimenticati, che si introducesse poi dopo, sono stati modificati i termini, ma il silenzio ha senso per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, della salute, dei beni culturali, anche, diciamo, nei momenti peggiori, e ne abbiamo visti, diciamo, i governi che hanno partorito la legge obiettivo, però insomma alla fine si era riusciti. Anche qui qualcuno aggiusta, fa a lunghe lette, però il filone, diciamo, di lavoro e l'idea è assolutamente quello. Modifica la conferenza di servizi, ma la cosa più grave è poi tutto il passaggio sulle semplificazioni. Questo è quello che oggi è entrato in vigore da qualche giorno, perché questa parte non è di quella che è stata fermata dalla Corte, no? per chiarirci purtroppo. Questa è entrata in vigore e questa che cosa fa? Fa un'operazione che ovviamente io penso su cui bisognerà comunque ritornare, e quindi vedremo come, perché era un'operazione di accentramento, perché tutto fa capo poi alla fine, semplifica, riduce, ma tutto fa capo poi al Presidente del Consiglio, perché anche i privati non è che soltanto una selezione di opere secondo quell'elenco, l'elenco delle priorità, ma anche privati direttamente possono accedere se hanno, se questo poi è il problema, se pensano che hanno avuto impedimenti poi sui territori. Ora, quindi il filone era quello sempre, diciamo, di un unico, un uomo che, o una donna, diciamo, che decide, cioè tutto molto centralizzato. È evidente che il risultato del referendum, io penso che metterà in discussione, su questo dobbiamo però forse anche, non perché io mi illuda, questo avete ragione chi l'ha detto, non mi ricordo che poi le regioni siano la nostra parte, assolutamente no, però io credo che comunque è un altro mondo, cioè il no al referendum ha stabilito che c'è comunque un altro mondo, quindi anche dal punto di vista normativo io penso che comunque su quel regolamento, sul DPR della Madia, che è molto grave, io penso che noi in qualche modo possiamo tornare anche a ritornarci su e forse insomma anche a dire in qualche modo in una via diversa. Però quello costituisce per tutti noi un allarme, perché quello è collegato poi allo sblocco Italia, per cui possiamo pure fare che Del Rio può fare il DPP, però alla fine no. In più c'è un altro elemento che io butto lì e dovete capire a proposito del ragionamento dell'opacità e di altro, cioè il CIPE a chi è finito in mano? Cioè nella delega il CIPE è finito all'OCO, quindi non è che allora una parte dei vincenti ha la parte che riguarda i fondi europei così, per il sud, e dall'altra Del Rio poi non lo so, diciamo nel mondo renziano cosa accade, però sta di fatto che Lotti ha lo sport, è una cosa così per divertirsi, la verità che però potrebbe far rientrare in ballo anche le Olimpiadi, non dimentichiamolo. No. Ma poi che è l'editoria, a proposito, perché Cemento e Costruttori non sono i finanziatori occulti solo della politica, ma sono poi dietro anche gruppi editoriali, cioè sono gruppi editoriali. Non è, ce ne sono anche altri. E poi appunto quindi editoria da una parte e il CIPE. Quindi anche una gestione che quindi rischiamo veramente di allontanarci rispetto al quadro che noi non rivoluziona, ma che abbiamo sempre con modestia cercato di raddrizzare e che prevederebbe appunto un elenco vero, un piano di priorità basate diciamo su un piano un minimo di programmazione ragionevole. Invece dall'elenco spietato che anche nella relazione Anna faceva, che cosa emerge ancora? Certo ci sono alcune metropolitane, sono opere che a noi interessano, ma purtroppo la direzione continua a essere sempre la stessa. Sulle concessioni autostradali noi in ogni provvedimento ci troviamo sempre qualche trucco e trucchetto per cercare di ammortizzare, no? E di ridare risorse, lo abbiamo visto continuamente, e abbiamo difficoltà ad avere accesso agli atti. Questo io quello è l'altro problema. Cioè poi dice opere snelle, condivise, la discascio, perché ci dicono sempre sì, io riduco i tempi, ma però c'è la discussione, il dibattito pubblico, non si capisce con quale tempo, in questi termini anche così ristretti come la facciamo. Ma c'è l'elemento appunto di chi valuta e dell'accesso anche agli atti, perché noi sulle concessioni autostradali abbiamo avuto, io Anna lo sa quante volte abbiamo chiesto, e abbiamo avuto difficoltà, abbiamo approvato anche in Senato, si faceva riferimento a opere suppletive previste in convenzioni, o convenzioni che erano bianche, cioè che non era possibile accedere agli atti, quindi c'è un problema di opacità in questo senso, di trasparenza, e devo dire anche, chiudo poi veramente, anche l'ANAC, Io voglio essere molto sincera, no? Su questo. Non può esistere un paese, non può esistere un paese normale, in cui alla fine abbiamo creato un'altra mega autorità, no? A cui tutto, che si occupa ormai di tutto. Ogni volta che c'è un problema di trasparenza, di controllo, si viene mandato tutto all'ANAC. Saranno tutti dei super uomini e delle super donne, ma così non può funzionare un paese, non può assolutamente, soprattutto per quanto riguarda quello che abbiamo visto continuamente dalle cronache, continua a essere poi il grande problema anche di legalità, oltre che di impatto sul territorio, di legalità di questo paese. Quindi queste sono un po' le questioni che abbiamo davanti a noi, e che fare diventa anche più complicato in questo stralcio finale di legislatura, perché non so se saranno 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, però io credo che almeno su alcune questioni, e io ho indicato una, che è quello di provare almeno a rimettere in discussione, a far saltare il meccanismo i processi di cosiddetti semplificazioni della Madia, che sono a mio avviso uno degli elementi più gravi, perché ci riportano, anzi aggravano anche la situazione precedente rispetto anche allo sforzo, che bisogna pure apprezzare, anche di buona volontà magari fatto dal ministro Del Rio. Grazie. Perché qui ho visto un mazzetto di lettere indirizzate, di inviti indirizzate ad altrettanti soggetti istituzionali da parte di Cesare Vacchelli del comitato Motibre, l'autostrada Tibre di Reno Brennero, per cui lui ci spiegherà il contenuto di questa missiva, e sicuramente non ci sono cose minatorie, che possiamo verificare, e lui ci spiegherà i problemi di quest'altra contestata rete, progetto di rete autostradale. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, per noi molto importante in questa fase, poi capirete anche il perché. Innanzitutto il tema di cui vi parlerò oggi si inquadra in quello più generale delle grandi opere nella Bassa Padana, del territorio da cui io provengo. Al centro di questo quadrilatero c'è la città di Casalmaggiore, forse qualcuno di voi conosce. Yes. Ebbene, questo quadrilatero di circa 60 km per lato è già contornato da 4 autostrade, quindi siamo già anche meno. Nonostante quello, sono in progetto, anzi una è già partita, di avere tagliato ulteriormente le 2 autostrade, la Cremona Mango e la Tirreno Reno. Sono 2 autostrade che si sostengono in modo energico e indissolubile, e si incrociano a metà del loro percorso, il tratto giallo, si fondono per 9 km e di nuovo si dividono, una va a sud di Mantova e l'altra a Verona. Vediamo però brevissimamente qual è il contesto generale in cui questa vicenda si inserisce. Allora, senza dubbio il primo argomento... Il primo argomento sicuramente è quello dei cambiamenti climatici. Sappiamo tutti che il dato è recentissimo, abbiamo superato in modo stabile le 400 parti per milione di CO2 in atmosfera, il 2016 l'anno più caldo dal 1880, 11 dei 12 anni più caldi, tutti concentrati dal 2000 in poi. D'altro aspetto, Tangentopoli, nel 2015 metà delle grandi opere è finite sotto inchiesta. Anche l'impresa Pizzarotti, che è quella che sta costruendo il primo lotto del Tibre, è tra quelle indagate nella questione, in un appalto, quello più grande di Expo. L'altra questione fondamentale è quella dell'emergenza smog. La pianura padana resta drammaticamente tra le 5 aree più inquinate del pianeta, e qui sicuramente quello che dobbiamo, sottolineo, dobbiamo fare è togliere i veleni e non aggiungerne altri. A Cancun si è appena conclusa la COP13 sulla biodiversità. Qui gli scienziati, oltre che i paesi di quasi tutto il pianeta, ci hanno allarmato su un dato fondamentale, che e cioè che è in corso la sesta estinzione di massa della storia del pianeta, con dei dati incredibili. Vi invito a chi non è aggiornato a leggere articoli resoconti di questo COP13, perché sono veramente drammatici. E quindi benvenuti nell'era dell'antropocene. Una speranza chiamata COP22. A Marrakech si è deciso di fare uno sforzo perché nei prossimi due anni si lavori per arrivare a obiettivi più ambiziosi, rimanere entro 1,5 gradi di aumento medio della temperatura, come condizione indispensabile per vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Fatto questo brevissimo excursus doveroso, la prima domanda è: abbiamo bisogno di nuove autostrade? Ebbene, il nostro paese, come già stato ricordato, in particolare la Lombardia, è già in media con la propria infrastrutturazione con il resto d'Europa. Siamo invece nettamente arretrati nel settore delle reti ferroviarie. Due dati sul piano regionale della mobilità territoriale dei trasporti della regione Lombardia, che è appena stato approvato, e su cui territorio insisteranno i due terzi della Tirreno Reno. Ebbene, ci sono due dati che sono per noi illuminanti. Degli oltre 16 milioni di spostamenti dei lombardi ogni giorno, il 90% di questi spostamenti è al di sotto dei 20 km. Di questo 90%, il 70% è al di sotto dei 10 km. Quindi i lombardi si spostano con queste misure di spostamento. Un dato sulla domanda sul trasporto delle merci: solo 7,10 delle merci viaggia su ferrovia, e ancora il 92,9 viaggia su strada. Quindi la risposta dovrebbe essere no, non abbiamo bisogno di nuove autostrade. Invece, su 6.600 km di rete nazionale, ne sono in progetto altri 2.100, e solo in Lombardia, qui il dato va aggiornato perché nel frattempo ne hanno già fatte alcune, circa 350 km di nuove autostrade, tra cui la Tirreno Manto e la Tirreno Brennero. Che cosa ci chiede l'Europa? Tra i 10 obiettivi definiti dal Libro Bianco dell'Europa del 2011 c'è il passaggio del 50% del flusso passeggeri su media distanza e del flusso merci su lunga distanza dal trasporto su gomma ad altre modalità. Qual è l'impatto di questa autostrada? Perché ora ci concentreremo soprattutto sulla Tirreno Brennero. 84 km di asfalto, 1800 ettari di terreno fertile cementificato, centinaia di aziende agricole costrette a chiudere. La distruzione di un territorio di pregio, di un'economia agricola di qualità e di ciò che resta della bellezza del suo paesaggio. Il forte impatto sui siti di rete Natura 2000, sulle specie e sugli habitat presenti. Tra questi il falco cuculo, una specie che è presente quasi esclusivamente in questa zona, su questi filari di pioppi che a 50 metri di quali dovrebbe passare l'autostrada. Ecco, questo è il falco cuculo, a forte rischio di distruzione. La questione dei costi e delle risorse. Intanto un progetto di questa entità, di 3,4 miliardi di euro, non ha al proprio interno un'analisi di costi-benefici, tantomeno un'analisi dei flussi di traffico. Per ritrovare dei dati attendibili dobbiamo ricorrere allo studio Polinomia, chiesto da noi e effettuato dalle due province di Cremona e di Mantova nel 2003, nel contesto dell'autostrada Cremona-Mantova. Ebbene, lì si dice che a regime, cioè nel 2019, con le due autostrade completamente realizzate, il Tibre Nord avrebbe avuto un traffico di 6.500-9.700 veicoli, la parte sud 12.300-14.300. Un dato da aggiornare, perché dal 2008 in poi sappiamo tutti che per effetto della crisi c'è stato un crollo dei flussi di traffico. I costi del Tibre dal 2001 1 miliardo, ad oggi, anzi al 2010, 3,4 miliardi. Non osiamo così pensare qual è il costo attualizzato. Solo il primo lotto, 513 milioni di euro. Le modalità di finanziamento del primo lotto, in teoria, dovrebbe essere autofinanziato. Poi vedremo che di fatto non è così. Modalità di riequilibrio dell'intero piano finanziario, cioè dei 3 miliardi e 4, per ora sono delle ipotesi. Sicuramente c'è l'incremento delle tariffe dal 2011 al 2018, 7,5% annuo, e che noi abbiamo calcolato, e nessuno ci ha smentito, con una maggiore entrata a carico di autocisa di oltre 1 miliardo di euro. Poi c'è la previsione di un contributo statale di 900 milioni di euro, su cui non c'è nessuna copertura finanziaria, lo dice la delibera CIPE, e alla fine, come si diceva prima, della concessione, successivo al 2031 un indennizzo finale di 1.730.000.000, anche questo non finanziato. Che qui, se facciamo un po' di somme aritmetiche, vediamo che queste componenti ci portano all'intero costo dell'opera, quindi non è vero che è un'opera sbandierata come autofinanziata dal costruttore, cioè dal concessionario, ma sarà interamente pagata dai contribuenti e dagli utenti della strada. E allora la domanda iniziale era: perché il bancone di un'autostrada inutile? La risposta è duplice: per il solo interesse della concessionaria Autocisa S.p.A. e della ditta costruttrice Pizzarotti S.p.A. Per capire meglio questa affermazione precedente, facciamo una breve sintesi della storia della vicenda del Tibre. Nasce, una delle fasi più salienti, nasce nel 2006, quando i Verdi, qui c'è Anna Donati e Monica Fassoni, stopparono la proroga alla concessione senza gara, dicendo all'Europa: attenzione, qui siamo in presenza di una gravissima irregolarità. L'Europa ha bloccato il progetto per alcuni anni, poi nel 2009, con una sanatoria politica, ha chiuso la vicenda, però con degli oneri, con degli obblighi a carico della concessionaria. E quali erano questi obblighi? Realizzare tutta l'autostrada e la progettazione definitiva entro il 31 dicembre del 2010, il totale autofinanziamento e, in caso contrario, la ridiscussione dei termini della concessione. Cosa è avvenuto? Già con la delibera CIPE si comincia a disattendere quegli obblighi. Si approva il progetto definitivo non dell'intera opera, ma del solo il primo lotto di 9 km e si prende atto di quel piano finanziario di cui dicevo prima, cioè di ipotesi di finanziamento senza una copertura finanziaria, non si dice nella delibera. Inoltre si aggiunge un elemento e si dice: a questo moncone diamo un'ulteriore valenza trasportistica, cioè siccome ci fermiamo lì, e qualcuno ci potrebbe dire: ma cosa serve fermarsi lì senza avere uno sbocco verso Verona? Noi diciamo che questo primo pezzo servirà per collegarsi alla Cispadana, che è un'altra opera su cui mista, autostradale e non autostradale, su cui crede molto la regione Emilia Romagna, che però va a Ferrara e al Mare Adriatico, non va al Brenno. Poi che cosa hanno fatto? Non contenti di quella, di quello che dicevo prima, hanno pensato bene di cancellare l'articolo 4 dalla convenzione, cioè la convenzione è quel documento contrattuale che lega la concessionaria con il Ministero dei Trasporti, dove c'è sancito tutti i termini del rapporto tra i due organismi. Che cosa recitava questo articolo 4? In caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della tratta Parma-Novara-Rocca, cioè tutta, entro il 31/12/2010, verranno conseguentemente definiti tra le parti nei sei mesi successivi gli effetti sul piano economico finanziario e sulla concessione. Tradotto, secondo noi, avrebbero dovuto rideterminare la durata della concessione riparametrandola ai 9 km su 84. Quindi, secondo i nostri calcoli, ma non ci vuole un genio, la concessione sarebbe di nuovo scaduta. Mentre invece questo non è. Naturalmente su questi gravissimi fatti abbiamo presentato l'ennesimo esposto e interrogazione alla Commissione Europea. Qui siamo ritratti a Bruxelles quando abbiamo portato l'esposto nelle occasioni precedenti. Poi un altro elemento significativo che serve per capire proprio questa vicenda è il colpo di scena avvenuto nel settembre del 2015. Cosa è accaduto? La regione Emilia Romagna, attraverso il proprio assessore ai trasporti, Donini, ha annunciato clamorosamente che a loro non interessava più il secondo lotto del Tibre. Noi naturalmente abbiamo fatto i salti di gioia, cosa invece che ha creato una reazione opposta nel PD parmense, nel settore degli industriali e nel centro-destra della provincia di Parma. Un'alzata di scudi per cui l'assessore Bonini, secondo me, lo aspettavano sotto casa, perché ma come, cosa stai facendo? Morale, l'assessore Bonini e la giunta hanno raggiunto questo tipo di compromesso dicendo: va bene, allora a questo punto ditemelo voi, provincia di Parma, in modo ufficiale: vogliamo che la provincia di Parma si esprima e ci dica a loro, giunta regionale, che cosa volete. E qui si inserisce quella che noi, perché questo è quello che vi dicevo prima, scusate, questo è il disegno che ha in mente la regione Emilia Romagna con quella cancellazione del secondo lotto. Il primo lotto pozzettina di 9 km, poi secondo loro dovrebbero proseguire quel tratto tratteggiato che è la parte non autostradale della Cispadana, per poi entrare a Reggiolo sulla A22 e proseguire con la vera Cispadana autostradale, quindi verso Ferrara, verso il mare. Cosa succede il 26 ottobre? Visto che l'assessore ha chiesto alla provincia di Parma di esprimersi, ebbene, lo stesso giorno è stato convocato il Consiglio Provinciale di Parma alle 8:30, alle 9:30 l'Assemblea dei Sindaci. Noi nel frattempo, e questo è frutto del lavoro che come comitati svolgiamo da 15 anni sul territorio, avevamo creato una notevole mobilitazione, oltre 70 soggetti tra associazioni, comitati, forze politiche facevano parte del nostro gruppo, oltre che a 11 sindaci, tra cui il sindaco di Parma. Cioè eravamo concordi sul fatto che non si doveva fare l'autostrada, ma l'alternativa ferroviaria e ciclabile. Ebbene, quella mattina il Consiglio Provinciale si riunisce e naturalmente noi sapevamo che lì sarebbe passato il documento pro autostrada e questo è accaduto. Il fatto grave che è accaduto è che l'assemblea dei sindaci, con i sindaci presenti, non è stata avviata in modo illegittimo, e noi abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica. Il Presidente del Consiglio Provinciale e non dell'Assemblea ha dichiarato lì seduta stante: ragazzi, l'Assemblea non ci sarà per mancanza del numero legale, quindi è revocata la data da destinarsi. Noi abbiamo subito eccepito sull'istante, ma chiaramente nessuno ci ha dato retta, perché cosa sarebbe accaduto nell'assemblea dei sindaci? Noi avevamo conti alla mano, avuto il 53% dei voti a favore della nostra proposta. Invece ci è impedito di avviare i lavori dell'assemblea dei sindaci, e fatto ancora più grave, il sindaco di Parma Pizzarotti, che in teoria era dalla nostra parte, non si è presentato all'assemblea. Io ero al telefono con lui dicendo: ma tu devi essere qui perché l'assemblea sta per iniziare. E no, non ha già detto che non ci sarà, cioè lui sapeva già ancora prima che si concludesse il consiglio provinciale, che quindi venisse sancito il rinvio dell'assemblea, quindi un gioco fatto al tavolino nei giorni precedenti ha impedito all'assemblea dei sindaci di pronunciarsi per un'alternativa ferroviaria all'autostrada. Naturalmente poi è venuto sul tavolo della giunta regionale, che pomeriggio doveva deliberare in proposito, è arrivato solo il documento del Consiglio Provinciale e non il nostro. E noi questo l'abbiamo chiamata una pagina nera per la democrazia a Parma. E così, mentre i lavori del primo lotto avanzano, Autocisa ha già chiesto al Ministero, ancorché non privi di copertura finanziaria, ha già chiesto l'erogazione del contributo statale di 900 milioni di euro. Attenzione, che quelli sono a valere sul secondo lotto e loro stanno realizzando il primo. Stanno già chiedendo i soldi, stanno già mettendo le mani avanti. Nel frattempo, il 21 novembre 2016, noi siamo andati a sentire il ministro Berlino a Noceto, il quale davanti ai 46 sindaci parmensi ha fatto una serie di dichiarazioni che qui vi sintetizzo. Era soddisfatto per aver sbloccato il primo lotto, un progetto che lui dice di aver ereditato, certo, ma che aveva ancora la possibilità, se voleva, di bloccare. Perché vi ricordo che il 24 febbraio di quest'anno noi ci siamo autoconvocati dal ministro Delrio, perché non ci ha mai ricevuto, ci siamo autoconvocati e siamo stati ricevuti, c'era anche Stefano Lenzi, ci ha ricevuto attraverso due suoi dirigenti che hanno valutato la nostra proposta, che poi vi spiegherò, ma lui non ha mai avuto, non ha mai voluto incontrarci, e invece ha sbloccato il primo lotto. Poi dice: il secondo lotto, su cui vanno verificati i flussi di traffico, è dentro una valutazione delle opere da mantenere in base ad un'analisi costi-benefici, finalmente si degnano di farla, che verrà conclusa entro aprile 2017, previsto per la prima anno. Poi dice: con molte risorse a disposizione verranno realizzate solo quelle opere che sono in grado di autosostenersi tramite i pedaggi. Ebbene, un'autostrada con 10.000 veicoli, vi lascio immaginare il valore del pedaggio di quella autostrada, lasciando così intendere che il secondo lotto non si farà. Ha invece definito una risorsa, la Cispadana, con cui il primo lotto, se vi ricordate, si collegherebbe. Poi ha detto anche che il suo obiettivo nei prossimi 5 anni è portare il 50% delle merci dalla gomma al ferro, anche perché ci ha ricordato che in Europa, Francia, Germania, Svizzera e Austria non vogliono che i camion passino e stanno facendo accordi per spostare le merci sul terreno. Non realizzare il secondo lotto significa inoltre, sempre detto dal ministro, ridiscutere con la Commissione Europea i termini della concessione dell'Autocisa. ha ammesso che su questo è aperto un confronto con la stessa Commissione europea. Fate tutte queste premesse, che cosa fare ora? Allora, noi facciamo queste considerazioni. È un'opera inutile e devastante, non ci sono le risorse, è un'opera senza futuro, è utile solo da autocisa per mantenere la concessione. Per collegare la A15 con il tratto non autostradale della Cispadana sarebbe stato sufficiente riqualificare un tratto di strada ordinaria esistente, quindi non era necessario fare 9 km di autostrada. Il piano economico del Tibre non si regge solo sui pedaggi, come ha detto Del Rio a Noceto, ha detto una mezza verità. Ci sono 900 milioni che ci dovrebbe mettere lo Stato, oltre che l'indennizzo finale. I lavori fin qui eseguiti sono di modesta entità e si limitano alla pista di cantiere, che poi è destinata a diventare la tangenziale di una frazione interessata dall'autostrada, ed alcuni plinti per il ponte sul Taro. Riteniamo sussistano ancora le condizioni per chiedere al governo che venga riaperta la questione Tibre, con lo stop ai lavori del primo lotto. Considerato inoltre che la Commissione europea ha aperto, almeno così mi risulta, una procedura di infrazione sulla Livorno-Civitavecchia per aiuti di Stato, e che sul secondo lotto, vi ricordo che si regge su un generoso aiuto di Stato, cioè per 900 milioni di contributo, è un aiuto di Stato. Poi novità positive dovrebbero arrivare dalla Commissione europea in seguito alla nostra denuncia circa il mancato rispetto della direttiva Habitat a tutela della rete Natura 2000. Riteniamo che, stante le numerose infrazioni riguardanti le nostre grandi opere autostradali, la discussione in corso tra il governo e la Commissione europea, abbiamo il timore che potrebbe sfociare nell'elenco delle opere da salvare e quelle da bocciare. Pertanto è indispensabile che noi si agisca in fretta e uniti. In che modo? La nostra proposta, nota da tempo, spiegata anche ai dirigenti del ministro, è che è possibile ancora riaprire la questione, chiedendo la moratoria e la sospensione dei lavori del primo lotto, convincendo il Parlamento e il Governo che questa è la cosa giusta da fare, trattando con la Commissione europea per sostituire il progetto autostradale con quello ferroviario, all'interno dell'accordo siglato per la proroga 2031 della concessione della 15. Un accordo transattivo con la ditta Pizzarotti, che ne ha le competenze, per convertire i lavori dell'appalto del primo lotto con i lavori di pari importo da individuare all'interno del progetto ferroviario del Tibre. Un'apposita legge per accantonare gli incarichi dei pedaggi e destinarli alla realizzazione della ferrovia. Quello che secondo, per noi almeno importante, il motivo principale anche della presenza qui oggi, è quello di dire: diamo vita, visto che c'è la presenza di forze politiche e istituzionali, di dare vita al coordinamento di soggetti che credono e sono interessati a questa proposta, per poterla rilanciare e farla camminare. Secondo noi ci sono le condizioni, però dobbiamo farlo in fretta, perché i tempi sono molto stretti, e perché solo insieme possiamo salvare il territorio e contribuire a salvare il clima. È stato precisissimo con il tempo, quindi questo è sempre molto apprezzato dai moderatori. Visto che ha citato il nostro relatore molte volte l'Unione Europea, quindi può essere uno strumento in qualche modo in favore, per fare sponda alle vostre richieste, io, se mi permette Stefano Lenzi, che sarebbe stato il prossimo relatore in scaletta, anticiperei l'intervento di Monica Fassoni, che è co-presidente del Partito Verde Europeo, proprio per spiegare in che modo l'Unione Europea entra in queste vicende e in che modo può essere un attore positivo per cercare di orientare il tema delle grandi opere verso quello che dicevamo all'inizio della nostra giornata, cioè che siano effettivamente utili e condivise. Qui siamo a Casalmaggiore, il 29 novembre dell'anno scorso, in occasione della COP21 abbiamo fatto una manifestazione, abbiamo portato come contributo del nostro territorio quello di dire: non facciamo due autostrade, ma facciamo due ferrovie. Oh, intanto in queste lettere che sono indirizzate, che cosa chiederete voi? Allora, qui noi chiediamo un'audizione alle commissioni ambiente, trasporto e lavori pubblici, Camera e Senato, perché ci ascoltino per farci spiegare il progetto alternativo del timbre ferroviario, perché se anche qui c'è una novità. Il ministro Del Rio dice voglio rivisitare le opere e farle costare di meno. Qui c'è l'occasione di far costare il timbre ferroviario 800 milioni. Dimostra, non facciamo un'opera ma cambiamola, esatto. Non magari solo, riusciamo ma a ridurre la volume, anche in che modo ridurre i costi e come finanziarlo, perché abbiamo completato, abbiamo fatto un pacchetto completo della proposta. Grazie, molte grazie per questo invito. Io credo che in questi tempi non particolarmente gioiosi anche per chi fa politica, chi fa ambientalismo, vedere la motivazione, l'entusiasmo che continua ad esserci da parte di Cesare e tante altre persone che con lui lavorano, Anna, Stefano, eccetera, è qualcosa che a me comunque fa... No, è inspiegabile, però è fondamentale, perché io credo che il fatto di essere de Goccio ha comunque un grandissimo valore, non solamente per noi individualmente, ma anche perché questo sforzo che io adesso mi facevo riferimento soprattutto ai comitati, eccetera, hanno un valore anche di tentativo di dialogo con le istituzioni e anche di partecipazione democratica che oggi veramente non può essere né sottovalutata né disprezzata e deve essere sempre veramente presa per l'importanza che hanno. Lo dico veramente con enorme rispetto e anche ammirazione, perché ormai sono anni che lavoriamo insieme su questo e non possiamo dire che abbiamo avuto molte vittorie, anche se qualcuna obiettivamente c'è stata e speriamo anche di avercene sempre di più davanti a noi. E la cosa che anche mi stupisce, anche dopo tanto tempo che lavoriamo su questi temi, è la sostanziale impermeabilità che le istituzioni soprattutto alcuni responsabili politici che in teoria potevano essere considerati più positivi, più aperti, eccetera, una volta che poi arrivano dove sono, in particolare al Ministero, poi dopo ridiventano uguali, identici a quelli dei governi precedenti. Quello che ci fa dire, ma è stato già scritto in decine di libri, tra l'altro insomma anche in quello che hai citato tu sulla Breveni se ne parla, cioè il fatto che questo blocco di potere delle concessioni autostradali nel nostro paese è un qualcosa che non dipende dalle maggioranze politiche, ce ne sono mica solamente quelle, ce ne sono vari altri, ma che ha una tale capacità di appiccicamento al potere che veramente il tema del sapere se sono legali o no anche rispetto alla legislazione europea diventa quasi un tema secondario, perché è un problema di rapporto di forza che sostanzialmente agisce quasi per inerzia e quindi per schiodarlo è veramente molto difficile, a meno che non ci sia qualcuno che arriva con delle forbici e lo taglia. Questo è un po' la difficoltà nella quale noi ci troviamo e ci dibattiamo da molto tempo, cioè il fatto che nonostante ci siano ormai delle capacità enormi di dimostrare che queste cose non abbiano nessun senso né da un punto di vista economico, né da un punto di vista trasportistico, né da un punto di vista ma nemmeno di profitto dell'impresa, a parte qualche individuo, fino per le autorità locali, e anche sono contraddittorie rispetto degli indirizzi legislativi ormai adottati da ogni dove, comunque sono tutte cose che sono ancora lì. Quindi questo credo che è una difficoltà che nonostante qualsiasi insomma, i tentativi da qualunque parte noi li prendiamo, noi ci ritroviamo sempre di fronte e la stessa cosa succede anche a livello europeo. Credo che il tema di come noi abbiamo cercato di affrontare questa tematica in Europa sia oggi non risolutivo, nel senso che noi non sappiamo se l'avremmo vinta, però non l'abbiamo nemmeno persa, questo mi sembra importante. Un po' come la magistratura, no? Che in teoria noi ci fidiamo della magistratura, soprattutto anche della Corte di Giustizia Europea, per tutta una serie di temi, poi però le cose vanno avanti talmente a lungo, ci vogliono talmente tanti anni per arrivare a un qualsiasi risultato, che alla fine A, siamo tutti esausti e B, a volte è proprio inutile. Io spero che non sia così per l'Unione Europea, nel senso che intervenga magari prima che il primo lotto sia finito, ma in in molti casi, sia dal punto di vista delle infrazioni dal punto di vista ambientale che anche su questo tema delle concessioni, il tema dei tempi sull'IVA, anche il tema dei tempi della decisione della Commissione, il fatto che è completamente arbitraria la decisione da parte sua di andare o di non andare in corte rispetto a, alla violazione che magari lei stessa ammette, è senz'altro una questione complicata. Quello che voglio dire è che noi, appunto, sono già parecchi anni che ci occupiamo di questi temi, abbiamo avuto in qualche caso anche qualche risultato positivo, però la decisione della Corte, della Commissione Europea, di andare in corte nonostante lettere contro lettere, negoziati, allora guarda che stai attento che così non va, eccetera, comunque non c'è stato. E questo è un tema che a me personalmente, insomma, mi interpella, perché significa sostanzialmente un diniego di giustizia alla fine, no? Per ragioni che in molti casi non sono nemmeno di carattere politico. Allora, detto tutto questo, qual è la situazione in questo momento? E non faccio riferimento solamente al Tibre, ma c'è tutta una serie di questioni di concessioni autostradali che sono interessate. Anna, se dico qualcosa di inesatto, come succederà sicuramente, lo potrà correggere, che riguardano sostanzialmente la tematica della deroga, della proroga, dello sconto fiscale, così, e del fatto che si cambiano le carte in tavola quando le regole erano già state stabilite o quando già c'era un accordo, e ne ha parlato anche Cesare, sul fatto che, vabbè, questa volta la deroga te la do, però è l'ultima, ok? Questo mi sembra che vi ricordate, perché purtroppo abbiamo avuto un problema quando abbiamo ottenuto, tra virgolette, questo risultato, che non abbiamo, non siamo riusciti a farci dare un pezzo di carta nel quale questa cosa, questo impegno, ti ricordi, del commissario McCreevy, era stato preso. Comunque, tutto ciò detto, queste tematiche sono state portate all'attenzione, come è stato detto a Cesare, della Commissione Europea. Ne è saltata fuori recentemente un'altra nella zona dove abito io, cioè Brescia, con l'autostrada della Valtrompia, quindi anche quella che del Rio ha suscitato, cosa che mi ha un po' stupito, però è così, perché quella veramente è un'autostrada, tutte queste pure, però quella proprio non c'è quasi più nessuno che va a Mezzana per il momento, quindi è un'autostrada proprio completamente inutile. Le autorità competenti a livello dell'Unione Europea sono due. Una è la commissaria Vestager, quella che è diventata famosa per via di Apple e per via di tante altre, quella Mena, sì. Invece un'altra che mena molto meno, che è la commissaria polacca all'industria e al mercato interno, la Biatowska. Queste due commissarie gestiscono questo dossier insieme, perché, come peraltro è stato anche detto, credo da Anna e anche da Cesare, ci sono degli aspetti sia legati agli aiuti di Stato che anche al tema della concorrenza, cioè le deroghe dell'autostrada, perché tu continuamente fai delle deroghe, è una questione che riguarda la commissaria Biatowska, quella che riguarda i sconti fiscali, ma anche tante altre cose. Anche il fatto la compensazione alla fine dei lavori, eccetera, sono tutte cose che riguardano invece gli aiuti di Stato. Ora, il punto è che tra la questione del referendum, il che conta, perché la Commissione Europea non ha voluto fare nulla che potesse in qualche modo danneggiare il governo Renzi in questa idea, secondo me peregrina, che qualsiasi cosa che aiuta o potesse essere considerata come un aiuto ai populisti, inteso Grillo e company, è un qualcosa che potesse essere pericoloso, quindi rompere le scatole al governo Renzi sul tema delle concessioni autostradali poteva essere considerato qualcosa che disturba il lavoratore, diciamo così. Questa è stata una ragione che, comunque, se voi ricorderete, che il referendum prima doveva avere luogo a ottobre, poi a novembre, poi a dicembre, e quindi è una cosa che ci portiamo dietro da un bel pezzo. E poi c'è una obiettiva difficoltà da parte dei servizi della Commissione, perché in realtà il negoziato con il governo italiano continua, nel senso che un giorno vanno da Roma con una proposta e questi dicono no, guarda, proprio non ce la possiamo fare, non è proprio possibile, al di là di quello che noi abbiamo detto, di quello che noi abbiamo portato come ricorso, nel senso che anche i servizi della Commissione Europea, soprattutto quelli del mercato interno, ritengono che sia completamente inaccettabile questo pacchetto di proroghe, questo coso di aggregazione di varie autostrade tutte messe insieme, poi dopo tutte derogate fino al 2040 e passa, eccetera. Loro stessi dicono non si può. E lo Stato italiano dice sì, ma noi abbiamo bisogno di rilanciare la crescita, e quindi questo tira e molla, è un tira e molla che mi è stato confermato proprio poco tempo fa e continua, è un tira e molla che sul quale la Commissione non arriva a prendere una decisione, perché nel momento in cui la Commissione dice basta, è chiaro che poi si va in corte e fine. Il problema è che da una parte la Vestager, la signora ha già un sacco di contenziosi aperti con la maggior parte degli stati membri, e non vuole aggiungere un altro, e per di più lo Stato membro, quindi l'Italia, su questo è veramente determinato, nel senso che non è che ci sia un ripensamento. Noi avevamo incontrato Del Rio proprio a Bruxelles e lui ci aveva detto, no, quando era appena arrivato come ministro, che ci aveva detto io sono del tutto cosciente di questa cosa, noi avremo un metodo completamente diverso, avremo un'idea diversa, supereremo la invece a quello che ci risulta il negoziato va avanti esattamente sugli stessi termini, perché l'Italia ritiene di riuscire ad arrivare a qualche risultato. Quindi io penso questo, noi ora il referendum mi risulta che sia passato, il governo mi risulta che ci sia uno nuovo, adesso diranno ma adesso ci sono le elezioni quindi non possiamo fare in modo di favorire Grillo, non importa. Però io credo che sia importante fare quello che ha proposto di fare Cesare, e cioè vedere di andare a vedere l'autorità comunitaria, sempre che ci dicevano, perché adesso diventa sempre più difficile il fatto di essere proprio ricevuti, cioè di andare alla Commissione. Con Anna siamo andate dalla commissaria Vestager, non è che ci abbia detto granché, era all'inizio di questa, però effettivamente poi il tutto è stato aperto. Però noi dobbiamo andare a vedere le due commissarie, in particolare la commissaria Vestager, ma l'ideale sarebbe andarci con, che ne so, 10 deputati di vari gruppi parlamentari, e il problema lì è un problema serio, perché per esempio all'interno del Parlamento Europeo, oltre al fatto che non ci sono ecologisti italiani, ma quello ci sono io che faccio il Presidente dei Verdi Europei e quello può passare più o meno, però il fatto che non ci siano degli ambientalisti al Parlamento, tutti dicono 5 Stelle, 5 Stelle, però poi loro su questi temi concretamente io non li ho mai visti neanche a Bruxelles. Dopodiché possiamo sempre cercare di fare una delegazione di deputati, ma sono deputati che purtroppo non parlano alle orecchie delle persone con cui parliamo, perché la Bierkowska è di destra e la Vestager è una liberale danese, quindi questi elementi politici comunque contano purtroppo. Però io penso che sia importante, nel senso che se noi riusciamo ad organizzare una delegazione di una, che so, 4, 5, 6, 7 deputati, 6, 7, 8 sindaci, che ne so, insomma, proprio un evento che non si, al quale non si può dire che non esiste, che però dovrebbe cercare di mettere insieme due o tre temi che sono generali, che non riguardano solamente il Tibet, ma insomma che vanno un pochino più là, quando ce ne sono a spare, non c'è proprio problema, e dicendo proprio concretamente questa è una questione che deve essere affrontata e decisa, vai da una parte o dall'altra, però decidi, cioè non si può tenere questa situazione in sospeso per ancora quanto tempo, essendo che noi siamo andati nel 2000 e... Lo sblocca Italia 2014, esatto. L'ultima volta? Sì, no, sto parlando dell'ultima volta, 2014. Quindi io penso che questa sia sicuramente una strada da percorrere. Un'altra strada da percorrere è quella di capire, rispetto anche a una serie di contatti che ci sono con la magistratura europea, quindi con la Corte di Giustizia, anche se noi non abbiamo ovviamente la possibilità di entrare direttamente in contatto, che è la commissione che deve fare questa cosa, però noi ho visto che ci sono alcuni personaggi dentro la Corte di Giustizia, in particolare italiani, che probabilmente ci potrebbero indicare, aiutare, eccetera, eccetera, su questa cosa, perché anche loro, almeno per quanto riguarda altri paesi, sono interessati a fare in modo che questo tema delle concessioni non diventi una cosa in cui uno Stato fa di nuovo quello che gli pare, perché questa è la situazione nella quale noi ci troviamo, perché altri paesi sono un po' più rigidi, però l'idea che ognuno può fare quello che gli pare sta diventando sempre più più attraente per gli Stati membri. E quindi questo secondo me è un tema interessante. Ora, questo non è un quadro particolarmente positivo, però credo che ci sia, perché c'è una sola cosa che funziona in questo momento ed è la mobilitazione, cioè il fatto di essere presenti rumorosi. Lo so che sembra una roba degli anni 70, però è così. E quindi penso che questa sia la strada che noi dobbiamo percorrere, cercando però di creare una massa critica, diciamo, che vada al di là dei territori nel quale noi ci troviamo. Sì, grazie. E soprattutto i cittadini devono ricominciare a parlarsi con i deputati e con i rappresentanti di vari ordini, io per esperienza ce ne sono che ascoltano, sono anche competenti, almeno per il suo fonte, per cui non voglio gettare la propria sulla politica. Stefano Lenzi, che ringrazio per la disponibilità di aver fatto passare un attimo avanti Monica Fassoni, torniamo a parlare dell'infinito conto costretto. Siamo masochisti. Innanzitutto due cose. Vabbè, non innanzitutto due questioni proprio di proposte di anni, iniziato ormai qua tra i contratti, le concessioni, il project financing, abbiamo smembrato tutto, io vorrei ricordare sommessamente, tra l'altro lo ricordo anche soprattutto al presidente del Polito, che però noi abbiamo un problema che riguarda la giustizia amministrativa in Italia e che, d'accordo, diciamo così, il contesto complessivo diciamo in cui poi si innervano le questioni, però non a caso io credo quando ho fatto il programma per il bene dell'Italia, appunto di Prodi, qualcuno aveva messo dentro un capitolo che riguardava la terzietà del giudice amministrativo, e non a caso io sottolineo il fatto che ok che è difficile che un giudice amministrativo si possa perdere in tecnicalità, ma noi abbiamo avuto perlomeno un decennio, se non un quindicennio, in cui il giudice amministrativo, per quanto riguarda le grandi opere, era una succursale della procura dello Stato, e in cui la terzietà appunto del giudice amministrativo in Italia è stata totalmente cancellata. Quindi, a proposito di bonifiche, forse anche questo discorso della terzietà del giudice amministrativo lo dovremmo, e tra l'altro forse è il caso, e consiglio al Tribunale dei diritti dei popoli di prendersi le sentenze del Consiglio di Stato e dei TAR sulle grandi opere e magari analizzarle, perché scoprirà che quelle sono verità manzoniane, non sono sentenze. Quindi sono d'accordo sul contesto, su tutto quello che vogliamo, ma questo è un altro campo di interesse che segnalo. Come segnalo, e forse varrebbe la pena, anche se questo è il solito discorso, potrebbe essere il solito discorso, ma siccome lo stesso rapporto del Servizio Studi della Camera negli anni, che noi conosciamo bene nel tempo, è diventato sempre più opaco anche quello, sia per quanto riguarda il cosa, cioè cosa comprendere, formalmente si comprende all'interno del ambito perimetro dei principi tutta una serie appunto di delibere. Quante di quelle, come abbiamo visto sul Tibre, però sono delibere puramente tecniche e hanno deformato la funzione del CIPE in assenza di provvedimenti che abbiano una copertura economica e finanziaria? E quanto quindi è stato inquinato del ruolo del CIPE in tutti questi anni, e poi viene portato dentro il rapporto, e anche il calcolo di quello che viene ultimato o no, appunto. In realtà dentro quel 10% ci sono i lotti di opere ultimate, ma le opere veramente ultimate in questi 15 anni, all'ultima rilevazione che poi è scomparsa, erano attorno al 4%. Però quanto abbiamo inquinato anche lì con l'avvio presunto di lavori per opere che non saranno magari mai concluse o si augura non siano concluse? Arriviamo a Ponte. Questa è la parte, diciamo, più propositiva, visto che dobbiamo essere stringati. Sì, assolutamente stringati. Perché il ponte ancora oggi? Il ponte ancora oggi, innanzitutto perché abbiamo avuto un déjà vu Cioè nel 2007 il ponte doveva essere chiuso, il governo Prodi, uno dei motivi per cui cade è il ponte, perché c'è un ministro che allora si chiamava Di Pietro che comincia a sostenere tutto il contrario di tutto quello che Prodi voleva fare. Prodi aveva annunciato nel 2007 che il finanziario si sarebbe chiusa la stretta di Messina S.p.A. Poi a un certo punto c'è un emendamento voluto dai Verdi del PDC allora, e a quel punto il governo si posiziona esattamente nella posizione contraria. Quindi siccome l'abbiamo già visto, e siccome vi vorrei ricordare che nel 2014 Nencini dice abbiamo i cinesi alle porte, non che ci vogliono invadere, ma che vogliono finanziare il ponte sullo stretto. Nel 2015 abbiamo la doppio intervento dell'NCD, prima Alfano e poi con la mozione proposta da Domino Bianchi che ottiene alla Camera la maggioranza. Poi Renzi dice prima il 6 novembre 2015, poi il novembre porta consiglio e poi il 27 novembre 2016, il 6 novembre 2015 dice il ponte sullo stretto si farà perché è un bellissimo simbolo per l'Italia. Il 27-11-2016, tra l'altro sbagliando il contesto perché erano 110 anni dell'impresa Savini che ha acquistato il pregio, lo spiego poi perché si è sbagliato il consenso, dice che il ponte si deve fare perché così, reggetevi tutti, si avvicina a Claudia alla Sicilia, questo lo trovo veramente molto rilevante, e aggiungere alla beffa, dice porterà 100.000 posti di lavoro. Tra l'altro appunto al solito. La cosa divertente è che questa ultima questione l'ha detta nei 110 anni da Salini e diciamo poco dopo c'è l'inchiesta Amalgama e il 26 ottobre del 2016 appunto, anzi no, questa era evidentemente prima la dichiarazione a Salini, no, il 26 novembre scusate, del 2016 c'è la retata dell'inchiesta Amalgama. E nella retata prendono anche Michele Longo e Ettore Pagani, che oltre ad essere presidente e vicepresidente di COCI, sono uno il manager, appunto, domestic manager dei lavori del gruppo Salini e l'altro è l'ex coordinatore del progetto del ponte, oltre ad essere COCI. Quindi diciamo i timori che questo possa riprendere e quanto questo, tra l'altro, al di là delle dichiarazioni politiche, influenzi su una situazione in cui con un decreto che è fatto dal governo Monti si è deciso sostanzialmente di porre liquidazione sulla base di inadempienze del general contractor, prima la concessionaria, poi sciogliere i rapporti con il general contractor, ma è ancora aperta la liquidazione ed aperto quindi il contenzioso, e quindi immaginerete che tra l'altro è un contenzioso civile, quindi quanto può durare, ma immaginerete che segnali della politica di questo tipo certamente non favoriscono la parte pubblica in nessun senso, tant'è che noi con Legambiente, con Italia Nostra e altre associazioni il 3 ottobre 2014 avevamo scritto a Renzi prima che facesse queste dichiarazioni dicendo appunto uno, ricordati che il progetto definitivo non è stato mai consegnato nella sua interezza al concessionario, per cui non scattano i 540 giorni dell'atto aggiuntivo suicida che fece Ciucci da commissario nel 2009, e l'altra cosa, ricordati che devi chiudere la vicenda, appunto, che devi essere adempiente rispetto appunto agli obblighi che aveva posto il decreto legge 187-2012, a fronte fra l'altro di un recesso immediatamente chiesto dopo l'entrata in vigore del decreto della allora in principio Salini, che appunto aveva detto che recedeva, ma non soltanto, entro il primo marzo del 2013 avrebbe dovuto produrre il riequilibrio di carattere economico-finanziario, quindi la giustificazione tecnica per arrivare alla definizione di un nuovo atto aggiuntivo, e il 2 marzo non arrivò assolutamente niente, d'altra parte l'azione del contenzioso era conseguente. Nel tempo appunto abbiamo detto, come ho ricordato, varie vicende, tra cui tutta quanta il meccanismo costruito dalla legge obiettivo dal 2001, ma poi la caduta di stile del 2007 del centro-sinistra fino ad arrivare appunto a quest'ultimo decreto. Abbiamo avuto un contratto che appunto nel 2006 non prevedeva penali, come ci confermò e confermò addirittura in bozza Ciucci in origine alla stessa Anna Donati, e che prevedeva soltanto il corrispettivo dei costi del progetto definitivo e del progetto preliminare e del progetto esecutivo, e una lievitazione dei costi che negli anni è andata da un 3,9 miliardi di euro con cui in pregiro allora Orbital, Uniti, eccetera, vinse la gara con un maxi ribasso che venne contestato inizialmente da Stalli, l'unica altra concorrente nel più grande progetto appunto di un'opera italiana, con i gruppi europei, Slavagaide e Austriaca, contro Canale Spagnolo, che erano fuggiti dicendo questa roba non regge dal punto di vista economico-finanziario, ci sono dei problemi. Il ribasso quanto è stato? Di 500 milioni di euro, un maxi ribasso rispetto alla base di gara di 4,4 miliardi, 3 miliardi e 9. E a Staldi fa il ricorso, tranne poi il ricorso viene spostato, tranne poi evidentemente a Staldi trova accordi con lo Stato per fare altre cose, e soprattutto Staldi interviene nella tessera dell'orografia, quindi diciamo da qualche parte è andato. E questa roba, non mi sto perché i minuti passano, ma oggi costerebbe 8,5 miliardi di euro per costruire una cosa che va a essere localizzata in una delle aree a più alto rischio sismico del Mediterraneo, il terremoto del 1908, 7 magnitudo Richter ricorderà, fu qualcosa, e in un'area totalmente tutelata dall'Europa per quanto riguarda le direttive aree sugli uccelli. Per non, e qua la finisco, l'altra anomalia, tanto per capire appunto come le cose avvengono e come l'inerzia, che ricordava Monica Frassoni, funziona. C'è stato appunto il primo progetto del 2003, il ponte viene approvato con il progetto preliminare. Noi vivevamo allora con 250 pagine di osservazioni e 100 pagine di lacune, 100 lacune puntuali. Poi si arriva al progetto definitivo e la procedura VIA viene avviata nel 2011, la procedura VIA si conclude nel 2013. Ma la cosa divertente, fra l'altro, con 230 richieste di integrazioni da parte dello stesso Ministero, 230 sul progetto definitivo, non so se qualcuno ha idea di cosa significhi, e alla fine, dopo 326 pagine di parere, la Commissione VIA decide, il dispositivo della Commissione VIA è: allo stato attuale non si può esprimere una valutazione. Questo è il dispositivo della delibera di valutazione di impatto ambientale. Noi abbiamo naturalmente dei riscontri in cui qualcuno là dentro disse: non possiamo dire di no dal punto di vista politico, ed era un membro della commissione VIA. Quindi questo è stato ricordato. A questo punto, e qua la chiudo, noi abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica e adesso anche all'ANAC, diciamo così, siamo stati obbligati in qualche maniera, anche perché gran parte delle cose che abbiamo sollevato alla Procura probabilmente sono prescritte, sulla questione appunto del maxi ribasso, sulla questione dell'atto aggiuntivo del 2009, ricordiamo che quello sia un atto aggiuntivo suicida, perché addirittura stabilisce che consegnato soltanto il progetto da parte del generale contratto al concessionario scattino 540 giorni e dopo i 540 giorni un indennizzo del 5% sul costo complessivo dell'opera, 8,5 miliardi di euro. Poi sulla variante di Gamitello, che è stata un'opera data appunto il general contractor quando la poteva benissimo realizzare per FI, ma era un'opera funzionale al ponte, per cui l'unica opera realizzata di un ponte che non si farà mai, una bretella di 1,1 km realizzata dal general contractor in quel vicino alla Reggio Calabria, Riva San Giovanni, che appunto non servirà mai a nulla, costata 26 milioni di euro. E in più appunto sulle questioni della via che, come avete visto, finiscono nel 2013, quindi diciamo, se qualcuno vuole approfondire, approfondirà, speriamo bene, che ci aiuti non tanto a chiudere il contenzioso civile, però almeno a ristabilire la verità dei fatti. Grazie. Quindi possibilmente sullo stretto. E il nostro viaggio sulle grandi opere controverse, non si sa quanto utili, si chiude con Edoardo Santini, vicepresidente di Legambiente, che finisce l'illustrazione dei casi pratici che abbiamo diceva Monica Frassoni, insomma, combattere contro le droghe è un po' una, diciamo, una lotta da ultimi dei due cani, e chi è rimasto fino ad ora a sfruttare tutto questo veramente ha una capacità di resistenza, insomma, si dice oggi, di resilienza notevole. Io volevo brevemente aggiungere qualche considerazione su un'opera che sta dentro questo ragionamento generale, però non vorrei che ci sfuggisse un fatto. Noi che da tanti anni ci occupiamo di questo tema, non ci dobbiamo perdere dentro la frustrazione che queste cose non cambiano mai, che comunque continuano ad andare avanti, perché in realtà noi siamo riusciti nel tempo a smontare una tesi che andava per la maggiore agli inizi degli anni 2000, che era quella per cui alla fine queste grandi opere si sarebbero realizzate perché una volta distrutta quella che era la normativa a fine degli anni 90 in vigore, quindi lacci e lacciuoli come venivano chiamati, e scatenate appunto le forze della finanza privata, poi si sarebbe riusciti a realizzare queste opere nel territorio. Oggi a questa tesi non crede più nessuno, e anche quello che vediamo è in qualche modo l'ultima lotta di opere che dietro hanno degli interessi fortissimi economici, in cui c'è un intreccio tra imprese, sistema bancario e pezzi di politica, in cui in alcuni casi c'è anche la situazione che le cose tornano tutte assieme, per esempio della figura di Valenzone e tutto questo, in cui ancora oggi abbiamo questi, diciamo, rimasugli di queste battaglie. Non perdiamo di vista da dove eravamo partiti. Io penso alla straordinaria battaglia che fa Vacchelli, Vacchelli insomma è riuscito a portare a casa qualche cosa, portiamo quella via. Se io penso a quello che è successo per il ponte sul Messina, non era detto che si riusciva a ottenere, insomma, ora diciamo di abbatterci su queste cose. Qualche anno fa noi eravamo distrutti dalla storia, avevano vinto loro, ora loro cercano di sopravvivere, portando a casa ancora qualche soldo, perché di questo parliamo soprattutto, che c'è dietro questi interessi, insomma, spesso interessi privati, di appunto tutta una serie di transazioni, di convenzioni, di insomma, tutto quello che è girato intorno al sistema in calza, e che ancora oggi cerca di sopravvivere. Di questa storia in qualche modo italiana, che speriamo in qualche modo di riuscire a fermare, perché insomma, io vorrei ricordare che comunque qualcosa è cambiato, perché il codice appalti ha segnato un cambiamento sia rispetto alle opere che anche rispetto, ci si augura, attraverso il ruolo dell'ANAC, a come si gestiscono queste opere, perché almeno questo dobbiamo dirlo, è cambiato qualche cosa. Ora, l'ultimo pezzo che manca è quello di far fuori almeno 200 di quelle opere che stavano nell'elenco legge obiettivo e cercare di inserire qualcuna realmente utile, giocando anche sulle contraddizioni dello slogan inventato da Delrio che hanno mai già fatto vedere. Perché la Tirrenica è un po' emblematica di questa situazione? Perché la Tirrenica nasce, anche questa come la Tirreno Brenner, il Fondo di è una storia antichissima, insomma si cita un come dicono, mai una persona, come dire, ancora una persona straordinaria, e ancora prima appunto, come giustamente parlava Gianni Mattioli, insomma è l'eredità di un processo che se uno va a vedersi, poi tra l'altro le cartine che c'è sul sito del Ministero dell'Ambiente, la Tirrenica si sta realizzando per tratti, se ti vai a vedere quelli che sono stati, che ci sono delle cartine di questi 500 elaborati che ci sono sul sito, in cui è veramente bisogna essere di scout, riuscire a trovare un senso e anche a non perdere, c'è uno che ci sono segnati tutti i tracciati proposti in questi anni, che vanno da praticamente all'interno, oltre la Miata, e si avvicinano poi sempre di più alla costa, fino a che ora si è arrivati praticamente sulla Lorena. Il problema qual è? Che quello che ci avevano detto in tutti questi anni, il centrodestra di governo, quando ripartì la legge obiettivo con Lunardi, contro cui si batté all'epoca Martini con l'assessore Conti, questa lotta tra la società Tirrenica più interna o mezza interna, e doveva tutto pagarsi con fondi privati, la cosa è completamente morta. Cioè, se uno si va a vedere, Lunardi, insomma, ci ha raccontato l'altro giorno, si va a vedere confrontati i flussi previsti nella prima proposta del 2001 con quelli che ora Autostrade dice che ci saranno, sostanzialmente è un paese che sembra che scoppiata una bomba nucleare, perché in uno dei flussi è appena scomparso. Cioè la stessa Autostrade dice qui i flussi non ci sono, sono tipo quelli di Vacchelli sostanzialmente, e quindi non si ripara. Cos'è che dicono? Tutto questo potrà andare avanti sostanzialmente se ce la lasciate fare per tratti, per tutta una serie di tratti, se noi vi raccontiamo tutta la storia, perché questo è l'altro punto, e se prosegui con l'occhio, che cosa vuol dire raccontare tutta la storia? Che continua andare avanti per lotti, e se uno cerca sul sito del Ministero dell'Ambiente, che in questo momento è l'unico posto in cui tu riesci ad avere informazioni pubbliche sulla Tirrenica, non riesce a capire dov'è il piano finanziario di quest'opera, dov'è la convenzione, cioè come si ripaga. Poi le voci che girano sono che quest'opera non si ripaga, per cui quello che dovranno fare è una ennesima modifica alla convenzione che nasce in tal modo, che è una strada interna e tutte quelle cose, che si è ridotta da 3 miliardi fino a 1 miliardo. Potrà andare avanti se la spesa rientra nella grande convenzione di autostrada, nessuno lo dice, lo scrive da qualche parte, e se comunque si realizza così, e poi alla fine della convenzione si rimette sostanzialmente a gara per quasi tutto il valore dell'opera, che è veramente surreale. Cioè ci avevano detto, i flussi ci sono, si ripagano i dati, poi ci dicono ci sono queste le condizioni. Queste sono le voci che girano, ma tutto questo in qualche modo si interpreta da chi è particolarmente addentro alla questione. Quello che oggi rimane sul tappeto è un progetto che ha perso ogni senso rispetto al territorio. Se uno va a vedere la Tirrenica, è la stessa storia del Tibre, cioè non c'è più alcun senso rispetto al territorio, ma soprattutto assomiglia moltissimo a un'altra grande opera tragica di questo paese, che invece questo sta andando avanti, che è la Tremontana Veneta, che è l'esempio di come le opere non vanno fatte perché non servono a quel territorio. In qualche modo, cos'è che si è fatto in questi anni? Si è annusato, si è fatto credere a un territorio con opera selettiva per spostamenti locali, poi sono diventate delle straordinarie macchine per muovere soldi, muovere cantieri, per realizzare opere che non servono più a quel territorio, che costano troppo. La Tremontana è questo: se voi andate e passate in quel territorio, trovate, quando l'attraversate, magari se andate verso nord, dei buchi nel terreno profondi 20 metri. Con un'infrastruttura con pochissimi svincoli e quindi del tutto inutile rispetto agli spostamenti che ci sono in quel territorio, che sono diffusi continui, legati a attività presenti in tutta, insomma, quella zona che è ancora una zona molto viva di questo paese. Quella nostra non serve a niente. La Tirrenica è tutt'altra zona, perché i flussi sono molti di meno, sono dei flussi soprattutto nei periodi estivi, da weekend e nei periodi estivi da turismo, e l'opera cosa prevede rispetto a come funziona oggi quella superstrada, che poi in parte è una superstrada, quattro corsie, poi due corsie, poi parte autostrada a nord, autostrada a sud, insomma, diciamo, una situazione un po' surreale, tutti questi pezzi un po' diversi uno dall'altro, ogni tanto paghi a casello, poi paghi la barriera, poi l'altra barriera, poi non più, poi ripaghi a casello. Che cosa succederà di tutto? Questo è previsto, cosa è previsto? Sostanzialmente diventerà un'arteria che servirà in qualche modo come una sorta di camionabile, cioè che farà pagare coloro che passano da nord a sud in quel tratto, solo quello tra Grosseto Sud e Roma, perché invece da Grosseto Sud fino a Rosignano, dove oggi c'è la superstrada, non si pagherà, e nel tratto da Grosseto Sud a quello che non si è ancora costruito, a Grosseto Sud a Tarquinia, sostanzialmente si chiudono l'80% degli svincoli, anche quelli più consistenti, la regola è un dramma, perché ci sono pochissimi ingressi a parte, ci sono anche pericolosissimi. Da questo punto di vista, insomma, ha bisogno davvero di un intervento di messa in sicurezza, quello che l'ho fatto, diciamo, dallo studio sul di giù. Tutto questo viene trasformato in autostrada chiusa con pochissime uscite e barriere di stazione. Qual è la conseguenza? Che sostanzialmente a Cavalbio diventa quasi impossibile raggiungere la stazione di Cavalbio, diventa sostanzialmente impossibile raggiungere la stazione di Alberese, diventa complicatissimo andare al mare se si è nella zona di Cavalbio, diventa complicatissimo arrivare addirittura al Parco della Maremma, dove si raggiunge un aspetto surreale. Oggi al Parco della Maremma si arriva attraverso tre uscite, che sono Rispescia, Alberese e Montiano. Il progetto prevede chiuderle tutte, tranne l'uscita Alberese, ma solo in un senso, che qualcuno deve spiegare anche la polizia trasportistica, che vuol dire solo in uscita verso sud. Cioè, se tu arrivi da nord devi arrivare verso sud e poi fare un giro complicatissimo, perché loro non vogliono che ci sia un'alternativa, quindi ti fanno fare l'inferno, che vuol dire che il Parco della Maremma diventa impossibile da raggiungere. Allora, in tutto questo la discussione politica si è aperta con i sindaci, ovviamente dicono, ma come ci avete detto in tutti questi anni che l'autostrada serviva al territorio, l'autostrada serviva allo sviluppo, poi noi scopriamo che noi sindaci della Maremma non possiamo più muoverci in Maremma, dobbiamo pagare 10 euro per andare da Cavalbio a Grosseto e poi quelli che stanno a Grosseto invece non pagano. Qual è il senso di tutto questo? e anche qual è il senso politico di tutto questo, nel momento in cui Rossi, presidente della regione, invece l'altro giorno, quando andava il suo assessore a confrontarsi, invece ha detto l'opera così, non ci rompete le scatole, serve lo sviluppo, ci avete chiesto tutti questi anni e ora si fa e basta. Questo è il fatto del politico, cioè in questo momento più chiudo dicendo che l'unica possibilità, quello che diceva in qualche modo Monica Rassoni, solo facendo casino si può ottenere qualcosa, facendo casino con i sindaci, facendo casino a Bruxelles, facendo casino anche alla Corte dei Conti, che quello che sta succedendo è surreale e anche l'ANAC dovrà intervenire, perché se veramente vogliono realizzare questo, quello, insomma, la soluzione finale sarebbe una barzelletta, insomma, autostrada con barriere che cui i residenti hanno un'esenzione in parte ma poi pagano, poi invece superstrada, poi un'autostrada con sistemi tutti diversi. Insomma, è veramente una barzelletta. Grazie. Dunque, l'ultimo relatore prima delle conclusioni di Nicoletta è Tommaso Montanari, famoso storico dell'arte. Prego. È famoso perché ricordiamo tutti. Io personalmente poi ho avuto modo di intervistarlo in un evento che abbiamo fatto a Firenze per Fondazione Banca Etica, si chiama Nuovo Modo, ha fatto un mezzo miracolo, cioè è riuscito a far distaccare 200 studenti del liceo e dell'università dal cellulare e da Facebook e da Twitter eccetera per mezz'ora parlando di cultura, per cui secondo me è davvero un mezzo miracolo questo. Prego, Tommaso, che ci parlerà di Ugo. E io non dico altro perché poi lo spiegherà lui. Chi è Ugo? Grazie, no, per altri sono i miracoli. No, io volevo solo fare qualche considerazione. Intanto ringrazio dell'invito. E poi volevo fare solo qualche considerazione sulla necessità di accesso al discorso pubblico e sulla sfida tra retoriche che c'è in questo momento a proposito delle cose di cui parliamo. Non a caso mi sono portato il libro di Kooning 1, Un viaggio che non promettiamo breve, che è uscito da poco e che mi pare il primo tentativo di portare il discorso che facciamo su una scala letteraria generalista, che ambisca cioè a uscire dall'autoreferenzialità in cui tutti ci troviamo necessariamente ad agire, con una grande difficoltà che abbiamo di espugnare il discorso pubblico nei mezzi di comunicazione principali, difficoltà con cui io mi scontro quotidianamente collaborando con un altro giornale. E davvero in mente, citava De Gregori, credo prima, un famoso verso di Viva l'Italia, Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Allora mi colpiva la concomitanza della compresenza, direi, dello scontro di questi due moduli di comunicazione opposti, di queste due retoriche diverse, proprio all'altezza del 2014, si è citato più volte lo sblocca Italia. Il 2014 è il momento in cui proprio il collettivo Kooning prova a mettere Ugo, cioè l'unica grande opera, all'attenzione utile, all'attenzione di un pubblico più grande, un tentativo che non va in porto. Loro si danno una sfida di lì a un anno, l'8 dicembre del 2015, come momento nazionale per Ugo. Leggo un passo di questo post che ha avuto comunque un'enorme risonanza sul... L'unica grande opera. Sì, l'unica grande opera utile. Leggo il passo. Esiste una grande opera, con le maiuscole, una sola di cui l'Italia aveva concreto bisogno ed è salvare il territorio, metterlo in sicurezza e risanarlo, salvarlo dal dissesto idrogeologico che fa la grande città e fa le montagne ogni volta che piove un po' più forte, ma anche liberarlo dalla cementificazione, dal peso che insiste sulla sua superficie, dall'inquinamento e dall'immondizia. Insomma, continuano tutto il contrario di quello che si accinge a fare lo sblocca Italia, decreto che ha per noi un'antifrasi, dato che il fine reale è congestionare il paese. Chiamiamola Ugo, è l'unica grande opera, l'unica che vale la pena realizzare e che darebbe lavoro a decine di migliaia di persone. Un serio investimento di denaro, energia e intelligenza collettiva per evitare catastrofi e riqualificare il territorio che rimane risorsa primaria e che rappresenterebbe in realtà un risparmio sull'ecocatastrofe future. Tutte cose che noi conosciamo benissimo, ma la volta più importante aggiunto è che a dirlo sia un collettivo di scrittori che di solito si occupa di tutt'altro e che lo faccia in una serie, in una piattaforma che tende, che può arrivare a un pubblico di nostri concittadini molto vasto. Accanto a questo, a questa impostazione, negli stessissimi giorni agisce la retorica contraria, che è quella del governo Renzi, che presenta lo sblocca Italia, con quella che secondo me è davvero una spia di linguaggio estremamente utile per capire, come dire, non tanto per capire noi, quanto per agire in modo più efficace questa battaglia di idee e di opinioni. Ed è il claim che Maurizio Lupi e Renzi decidono di usare per lanciare lo sblocca Italia stesso. Il 30 agosto 2014 Lupi twitta: col decreto sblocca Italia, padroni in casa propria per le ristrutturazioni. Naturalmente tutti voi conoscete la storia di questo motto, di questo slogan, che però merita una storia seria, metterebbe una storia molto dettagliata. In quel momento, con un tweet di un ministro del governo Renzi, che è qualunque, ma Maurizio Lupi, che risorge senza nessuna reticenza, senza nessuna litote, senza nessuna preterizione, lo slogan con cui Berlusconi, il 21 dicembre del 2001, aveva lanciato la legge obiettivo. Lo cito velocemente il discorso di Berlusconi: questa legge tra l'altro comprende un capitolo molto interessante per tanti cittadini, perché evita ai cittadini di passare sotto le forche caudine degli uffici comunali per modifiche interne alla propria abitazione, ai propri uffici e ai propri stabilimenti. È un recupero di una vecchia legge che vigeva già nell'Ottocento, quella che diceva che il cittadino era padrone in casa propria, salvo per ciò che poteva essere visto dalla strada pubblica, chiuse le virgolette di Berlusconi. È il momento in cui uno slogan utilizzatissimo dai partiti xenofobi di tutta Europa, ma in tutt'altra chiave, e per esempio in Italia utilizzatissimo dalla Lega, quando si parla di immigrazione, diventa la bandiera della lunghissima e viva stagione dei condoni post factum o prima del fatto, come lo sblocca Italia, poco importa. Le slides ufficiali del governo Renzi, che vengono listate col passo dopo passo di tutte le norme del governo, è un'altra fase di comunicazione evidentemente, sono disponibili in rete in un unico file che si chiama Sblocca Italia, padroni in casa propria, PDF, senza alcuna, diciamo, soluzione di continuità di slogan. Ogni schermata alle spalle del Presidente del Consiglio in televisione passa sotto il titolo Padroni in casa propria, i vantaggi per il cittadino. E quando la Presidenza del Consiglio lancia la campagna stampa dello sblocca Italia, che viene viralizzata sul web ma anche sulle televisioni pubbliche con uno spot di 15-30 secondi fatto spese nostre, il claim è la traduzione pop dell'ottocentesco motto evocato da Berlusconi, letteralmente: è casa tua, decidi tu. Quindi dall'unica grande opera utile della casa comune all'idea di una come dire, proprietà senza limiti. Naturalmente nel discorso berlusconiano la casa propria è quella letterale, è la propria abitazione, ma c'è un significato traslato generale: la casa è il paese, è l'Italia, l'essere padroni è l'insofferenza radicale degli italiani ad ogni regola. È storia di poche settimane fa, l'avrete vista, immagino, e riaggio quello che veniva detto sulla Madia, sulla legge Madia, il colloquio fra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini a Porta, in cui Matteo Salvini dice: ma voi che cambiate la Costituzione, ma non ne frega niente a nessuno di quello che fate, fate una cosa utile, abolite le sovrintendenze. E la Boschi che risponde con un'ingenuità diversa da quella di Franceschini: beh, Franceschini le ha già parecchio indebolite, approviamo la riforma costituzionale e poi le aboliamo davvero le sovrintendenze. Cosa che essendo in video è difficilmente smentibile, ma che ha avuto poi tutto sommato una circolazione limitata. È naturalmente questa idea di eliminazione di ogni regola e di ogni corpo terzo, di ogni terzietà. Ricordo che non è stato ricordato prima, ma diciamo, non solo la conferenza dei servizi viene modificata dalla Madia, ma passa l'idea che nell'ufficio unico del governo sul territorio, lo chiamo lo Stato, come si è chiamato il governo, le sovrintendenze stesse sono ordinate dal prefetto che dà, dice il testo, la direzione e quindi, diciamo, l'esecutivizzazione del potere terzo delle sovrintendenze. Tutto questo sta nel padrone in casa propria, cioè il ribaltamento letterale dell'articolo 1 della Costituzione, alla sovranità del popolo, basata, diciamo, sull'idea ciceroniana di una comune libertà, basata sulla comune sottomissione alle leggi, si oppone l'idea, come definire la texana, di una proprietà individuale dal valore assoluto. La legge finisce dove inizia la proprietà. Seguire padroni in casa propria, tutte le sue riproposizioni, anche straordinariamente recenti, nella campagna referendaria è stato molto usato dal Presidente del Consiglio, è molto interessante. È molto interessante anche fare una storia più profonda. In altre occasioni ho citato questo fatto singolarmente profetico, quando Calamandrei è in esilio lontano da Firenze, a Colcello in Umbria, durante la liberazione di Firenze, fra i libri che trova in questa casa che non era la sua, trova il mulino del Po di Riccardo Bacchelli. Tra le frasi che sottolinea c'è una frase pronunciata dal protagonista, diciamo, reazionario di destra del mulino del Po, che ha vietato l'Ottocento, il barone, che dice: la mia idea di buon governo è dove uno comanda in piazza e tutti sono padroni in casa propria. Guarda un po', in questa idea, diciamo, completamente solidale. Allora, diciamo, se se nel 2014 si affrontano nel discorso pubblico queste due proposte, quella di Ugo, dei Wuming, destinata a molta meno risonanza del padrone in casa propria, mi pare che il punto sia, il punto che determina poi questa eclissi di Ugo, potremmo dire, è il legame fra il territorio e la comunità. Perché il padrone in casa propria propone un'atomizzazione in cui ci si rivolge all'individuo e si propone all'individuo di affrancarlo dalle regole, dalle leggi, dagli organi della burocrazia vessatoria, e dall'altra parte invece si parla di un territorio abitato da una comunità, potremmo dire il paesaggio, il territorio di chi? Di una comunità o di una pluralità di soggetti. Da questo punto di vista il caso dell'autostrada della Lema, che veniva citato poco fa, è molto interessante. Domenica si è svolta un'assemblea partecipatissima nella fattoria della Parrina, perché il 1 dicembre, in questa follia, diciamo, di un'autostrada fatta a pezzi, senza storia, senza futuro, ma che il presidente della regione Toscana vuole continuare a fare, il 1 dicembre si è presentato il progetto di tracciato a Sedonia Fonte Blanda e ci sono 60 giorni per presentare le osservazioni. C'è una comunità vasta che si è tassata per pagare ottimi tecnici che stanno preparando le osservazioni, e si gioca una battaglia che secondo me noi dobbiamo avere la capacità di inserire, di incuneare in questo dibattito nazionale che è polarizzato fra la grande opera unica utile senza voce e la retorica dei padroni in casa propria. Non fosse altro perché Enrico Rossi si candida a guidare il PD, come dice lui, su base di socialismo, lo cito. Allora, quale socialismo, di quale momento, di quale periodo, di quale epoca storica, e con quale prospettiva? In quella assemblea, dove si andava appunto da Nicola Caraccio agli agricoltori della Maremma che si vedono, e addirittura ai cittadini, perché quel tratto deve passare attraverso un battello scalo, demolendo un'enorme quantità di case, e c'erano i residenti in quelle case, negli interventi di tutti i cittadini era ricorrente la richiesta invece della messa in sicurezza del territorio di Alvinia, che viene devastato da un'alluvione delle più gravi recenti, e nel territorio dovrebbe insistere proprio uno dei tronconi. Dal basso, nella realtà di questa, non dal basso, in basso, in un felice basso, questa contrapposizione era continua. Noi vogliamo Ugo, non lo dicevano così, ma noi vogliamo questo, non vogliamo affatto l'autostrada. Tutto questo in Toscana, dove, diciamo, il piano di paesaggio di Anna Masson viene smontato giorno dopo giorno con l'estromissione della Masson dalla giunta, e di fatto viene reso del tutto inefficace e inconcludente, e in cui il giorno dopo la sconfitta del sì, gli argomenti di cui si parlava con più concretezza sui giornali locali sono l'aeroporto, l'inceneritore, cioè il futuro della piana di Firenze, e per l'appunto l'autostrada tirrenica. Allora, da questo punto di vista mi pare che il punto, la sfida vera, sia riuscire a raccontare il ruolo delle comunità nella riconquista della sovranità del territorio, perché quell'assemblea della fattoria della Maremma è completamente invisibile da un punto di vista mediatico. Allora, se si prende un passo della sentenza del Tribunale dei diritti dei popoli della Val di Susa, di cui si parla, la sentenza in cui si dice: si raccomanda al governo italiano di rivedere la legge obiettivo del dicembre 2001, mi scuso se qualcuno l'ha già letta oggi, si raccomanda di rivedere la legge obiettivo del dicembre 2001, che esclude totalmente le amministrazioni locali dai processi decisionali relativi al progetto, così come il decreto sblocca Italia del settembre 2014, che formalizza il principio secondo il quale non è necessario consultare le popolazioni interessate in caso di opere che trasformano il territorio, quando si legge questa sentenza di un tribunale che finora si è occupato di questioni diciamo, molto lontane dall'Italia, dalla sua democrazia, e quando questo si legge in un contesto come un'assemblea di quel tipo, si riattivano una serie di, come dire, di consapevolezze che però secondo me noi dobbiamo far evadere da quel contesto ristretto. Io credo che da questo punto di vista la battaglia referendaria sia stato un passaggio importante, cioè si è capito, non ancora una volta forse tanto nel circuito mediatico, ma nelle infinite assemblee, si è capito molto bene che il titolo quinto aveva in gioco questo, insomma, cioè diciamo l'esercizio concreto della sovranità delle comunità sui propri territori. È interessante come non funzionasse più qua la retorica del sindaco d'Italia, che è stata la retorica fondamentale, diciamo, per il sì, perché lì era molto evidente che questa retorica non parlava di una sovranità delle comunità locali, ma semmai di un passaggio totale sopra la testa delle comunità. Da questo punto di vista io credo che sia stato molto evidente che ciò che si è la partita, una delle partite che si sono giocate nel referendum costituzionale, poteva essere raccontata, e io l'ho visto fare in un'assemblea in Sicilia, cosa che mi ha molto colpito, attraverso l'epopea, vorrei dire così, delle battaglie contro le grandi opere. Io ho sentito leggere questa pagina, che è brevissima, ve la leggo, in Sicilia. È una pagina del libro di Umiguno sulle grandi opere, e sulla TAV in particolare, che racconta una notte famosa, la notte del 31 ottobre 2005, quando 1000 agenti salgono, ministri, carabinieri, polizia, finanzieri, salgono sul Seghino e si trovano di fronte che cosa? E questo è il punto. Si trovano di fronte i sindaci con le fasce tricolori, una vigilessa in divisa con un labaro di un comune, e scrivono i notav, scrivono Huming, alle pendici del Rocciamelone, quel giorno qualcuno aveva contato 15 fasce tricolori, pubblici ufficiali contro pubblici ufficiali, la forza armata dello Stato mandata a sbaragliare quelli che in teoria erano suoi rappresentanti. La crepa era visibile da mesi, durante l'estate i consigli comunali si erano riuniti ai presidi, eccetera, eccetera. Interrompere la seduta di un organo elettivo era un reato contro la pubblica amministrazione. L'articolo 340 del codice penale veniva usato come barricata. E i sindaci, 4 mesi dopo, erano direttamente nel pacchetto di Ischia. Io ho sentito leggere questo nella Valle dei Tempi di Agrigento per spiegare qual era il rapporto tra il nuovo accentramento proposto dal titolo quinto e l'estromissione e lo svuotamento completo dei poteri delle comunità locali. Non venite a raccontarci del sindaco d'Italia se i sindaci con le fasce tricolori venivano caricate da 1000 agenti mandati dallo Stato centrale in quella che è la prova generale della riforma per quanto riguardava il titolo. Allora io credo che se riusciamo a recuperare questa, usiamo la parola cara all'ex Presidente del Consiglio, questa narrazione, questo storytelling completamente espulso dalla comunicazione mainstream, noi abbiamo la possibilità di fare uscire ciò che ci siamo detti qua da questa preziosa sala, molto bella, che è molto bello trovarci, e provare ad affiancare i discorsi sacrosanti delle cifre che ci vogliono assolutamente, anche delle cifre dell'evidenza delle leggi, anche però un'altra forma di comunicazione che non possiamo lasciare tutta alla manipolazione dall'alto, ma che dobbiamo, come dire, reincarnare dal basso in un'altra forma di esercizio della sovranità delle comunità, cioè la sovranità sul racconto di se stessi e della propria reale situazione. Gesù Iugo, possiamo lanciare questa canzone, che va bene anche per Twitter. E comunque dobbiamo anche forse ritrovare il senso di comunità, perché è vero che le comunità protestano, ma il fatto di che la retorica del padrone di casa propria attecchisca in modo bipartisan, forse sottintende il fatto che abbiamo perso questo senso di comunità. La risposta forse più bella di Susa, all'accusa del NIMBY, il luogo delle adesso. Colgo l'occasione per informarvi che l'urbanista Paolo Berdini, assessore all'urbanistica del Comune di Roma, ha avvisato che non può muoversi, e sinceramente ci dispiace, perché sarebbe stato interessante, soprattutto in questo momento. Devo dire che mi avete stupito, e l'altro mezzo miracolo avremmo fatto se oggi fosse venuto qui in questa situazione in cui ci troviamo oggi al Comune di Roma. E quindi l'ultimo quarto d'ora a nostra disposizione lo dedichiamo a Nicoletta Dentico, che avrà il compito di porre a sintesi le suggestioni e le riflessioni avute durante il seminario di questo corso. Faccio velocemente, perché sarete tutti esausti, stanchi, e perché tutte le cose sono state già dette. Mi sembra importante riprendere il fatto che la discussione che noi abbiamo sviluppato noi oggi qui riguarda il nostro paese, il bel paese, massacrato e cementificato più che ogni altro paese in Europa, ma lo è stato detto, si è detto questo all'inizio di questo pomeriggio. Questo è un paradigma esso stesso che viene da lontano, questo delle grandi opere. Il sud del mondo le conosce molto bene queste cose, perché sono le ricette che sono state da decenni, sono somministrate da Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, ed è il paradigma, diciamo, lì si è fatta la sperimentazione più devastante, no? Attraverso, come dire, le grandi dighe su cui noi italiani siamo maestri mondiali, il paradigma delle grandi miniere. Non è un caso, non si è accennato a questo tratto molto importante del lavoro che ha fatto il Tribunale Permanente dei Popoli, che nel tutto lavoro sulla TAV non c'erano soltanto esperti italiani, ma c'era invece un bel mix tra esperti giuristi del nostro paese, insieme a esperti giuristi o persone che hanno battagliato in altre situazioni del mondo, in America Latina e non solo. Quindi questo è, appunto, sono le mega miniere dell'America Latina, che si trovano anche, in cui si trova impelagato anche un leader, diciamo, da luce e ombre come Trudeau, dove, no, appunto porta avanti questa idea che le grandi minds siano, appunto, una cosa da salvaguardare. C'è tutto il discorso che evidentemente riguarda poi l'argomento che abbiamo trattato oggi, le strade, le ferrovie. Quindi è una cosa che oggi si riversa da noi, si è globalizzato questo paradigma, colpisce il sud globale e il nord globale. Io trovo che questa sia una grande opportunità nell'ottica dell'appello che ci ha fatto Monica Fassoni, cioè quello di essere presenti rumorosamente, no? E secondo me l'approccio che ha avuto il Tribunale Permanente dei Popoli sulla TAV è un approccio piuttosto innovativo per quanto riguarda il nostro paese, ma sicuramente da continuare a perseguire, perché le comunità rumorose oggi si comprendono tra nord e sud globale molto di più di quanto forse non potesse succedere 10 anni fa, 15 anni fa. Quindi qui c'è una grande occasione da non perdere, nel senso di, è importantissimo tratteggiare la narrazione Ugo all'italiana, ma sapere anche che questa è una narrazione europea, è una narrazione globale, una narrazione mondiale. Mi sembra che venga fuori da tutte queste ore di discussione un paradosso. C'è una cosa, un vantaggio che producono queste grandi opere, cioè il fatto che scatenano scintille di democrazia, no? Voglio dire, no, si sono prodotta letteratura, ha prodotto studi anche di carattere accademico, per esempio, su la sperimentazione di cui ci ha molto efficacemente parlato Alessandra Agostino oggi su tutta la questione TAV. Cioè, questa grande fibrillazione di innovazione, di rapporti, di comunità, ma anche di esercizio della democrazia classica, che tutto sommato poi è stata persa. Cioè, farci l'escalation dalla petizione, la richiesta, la manifestazione e poi l'azione giuridica, e poi, cioè, è tutto un susseguirsi, un inanellarsi di azioni costanti, proprio determinate. Sono un patrimonio da salvaguardare, tutto questo, perché forse è l'unica via di salvezza che rispetto alle narrazioni dominanti può dare uno spiraglio di azione a chi oggi è tentato dal pensare che comunque c'è poco che posso fare, no? Cioè, io lo dico soprattutto pensando, per esempio, ai ragazzi, alle generazioni più giovani, no? Che forse non hanno neanche il senso di tutta questa storia di degenerazione, di assalto alla diligenza che ha preso piede e appunto non hanno sicuramente, forse non necessariamente la prospettiva globale. E però questa deflagrazione di democrazia, questa buona pratica della democrazia sostanziale, oltre che a quella, diciamo, esercitata secondo i passaggi formali, che Alessandro Agostino ci ha raccontato, che Cesare oggi ha personificato in maniera, come dire, plastica, molto chiara, con la forza del suo racconto, con la forza della tenacia, la forza di questa persistenza, di questa capacità di restare gioiosi nonostante anni e anni di mobilitazione, perché poi alla fine la mobilitazione ti dà anche una forza, no? E oggi credo che Cesare ce l'abbia passata questo grande piglio democratico, lo chiamerei così. Quindi approfittare paradossalmente, no? di quello che abbiamo imparato, della tecnologia di democrazia che abbiamo messo in campo, che abbiamo conosciuto, che forse è ancora da mettere in correlazione. Quello che avviene in Sicilia con quello che avviene appunto in Piemonte, quello che avviene nelle comunità che si impegnano sul fronte autostradale con quelle che si impegnano su altri fronti, no? Perché invece i personaggi della democrazia formale, citato Enrico Rossi, con cui andavo a scuola, lui era più grande di me, però insomma sono stati coloro che hanno segnato anche storie, no? Di grande lungimiranza politica, purtroppo poi si sciupano, col tempo si sciupano, si entra in una... Va preservata questa freschezza, che tu per esempio hai preservato conoscendoti abbastanza nel tuo operato, quindi bisogna salvaguardarla, questa forza, questa energia positiva. Credo che poi l'altra questione sia quella di rilanciare evidentemente Ugo, cioè è positivo, molto positivo, con una comunità di letterati, di scrittori, perché poi alla fine, come dire, la inefficacia, la capacità distruttiva di questo paradigma dominante è sotto gli occhi di tutti, come è sotto gli occhi di tutti la follia di una... questa ipertrofia finanziaria, di questo turbo capitalismo finanziario, che naturalmente non sta producendo nulla di buono se non l'impinguamento delle tasche di quei pochi che lo dominano, no? che lo agiscono sostanzialmente, no? Quindi è esattamente una declinazione simile in settori diversi ma dello stesso modello, come dire, sono le stesse concatenazioni di logica, no? Che si rappresentano e si declinano in ambiti diversi, che però sono uniti. Oggi non a caso qui c'è la fondazione, cambierà il nome, si chiamerà Fondazione Finanza Etica per semplificare, ma la Fondazione Culturale Responsabilità Etica ci teneva a essere qua perché effettivamente si sente coinvolta come parte di un gruppo bancario, che è quello di Banca Etica, a dire che ovviamente la concatenazione tra affari e speculazioni finanziarie è un tutt'uno, ma che c'è bisogno di anche, come cittadini, non soltanto come dire, mettersi in un atteggiamento di protagonismo individuale rispetto anche al settore bancario con cui si interagisce a livello personale, perché le banche comunque ci stanno invischiate in queste vicende, forse in alcuni casi, però voglio dire, nelle grandi opere ci stanno invischiate, come prima cosa, e soprattutto, quindi è possibile come cittadino andare a scegliere le banche che fanno, diciamo, il danno, che non fanno danno e che fanno il danno minore, cioè chiedere conto alle banche di quello che fanno in questo settore. Un'altra cosa che credo sia assolutamente importante citare, che la fondazione fa, è quella di attivare, oltre alla mobilitazione di cui parlava Monica Fassoni, la forma di un azionariato critico che in questo momento stiamo cercando di organizzare anche su scala europea, no? E che non è detto che non si possa organizzare anche su scala mondiale, laddove oggi esistono percorsi come quello che è appena poco cominciato a Ginevra, che rivendica una convenzione vincolante sulla, non sulla responsabilità sociale delle imprese, ma sulla responsabilità legale delle imprese, che in questo, diciamo, negoziato globale non si possano mettere insieme le comunità, ma anche le eventuali azioni che si vogliono intraprendere su questo settore. Quindi tra queste sicuramente l'azionariato critico. Siamo riusciti, a furia di bazzicare ENI, a furia di fare domande specifiche all'assemblea dell'ENI, a far reclinare ENI da un progetto che aveva in America Latina. Quindi, come dire, siamo solo all'inizio di questa pratica, ma forse è da sviluppare, da mettere a punto, da raffinare ancora, da diffondere, perché non è che lo debbano fare soltanto quelli di della Fondazione Finanza, appunto della Finanza Etica, cioè sta a tutti noi, alle organizzazioni che sono qui presenti, sicuramente c'è la competenza, il know-how, perché questo la politica lo sa benissimo, la competenza sta nella società attiva, nelle comunità attive, lo sanno bene, che ormai non è più un gruppo di cialtroni, come dire, casinari che si attiva, no, lo sanno benissimo, tant'è che infatti hanno una sistematica assunzione della semantica, delle parole, che sono le parole in primis concepite da chi invece intende esattamente l'opposto, da chi intende il bene comune, da chi intende la partecipazione democratica, da chi intende appunto Ugo. L'unica grande opera che è la tutela, la salvaguardia del nostro paese. Quindi direi che questo è la sintesi che mi viene di fare, aggiungendo una nota per me molto significativa, e significativa anche nella decisione finale di non cancellare questo incontro, che pure c'è stato, no? Perché dopo la vicenda dell'esito e la caduta del governo, ci siamo chiesti con Giulio Marcon, con Anna, se avesse senso farne in questo momento così un po' sospeso, anzi veramente ora non è più tanto sospeso, era sospeso quando ne abbiamo discusso, cioè il passaggio di questo voto referendario, che non dobbiamo farci defraudare. C'è un rischio che questo avvenga, no? Perché c'è un rischio di voler in qualche modo mortificare altrimenti o neutralizzare, un po' la stessa logica di cui parlava prima sempre Alessandra, scusate, mi ha colpito molto, cioè questa neutralizzazione poi degli effetti di questo voto, no? Ma si parla di altro, ecco, io credo che ce lo dobbiamo conquistare, noi questo 60%, che pure lo dicevamo oggi con Emanuele, è un 60% molto eterogeneo, dove ci saranno probabilmente anche cementificatori, anche i palazzi, cioè ci sono molte anime dentro questo no, purtroppo è così, sappiamo che ci sono anche coloro che non la pensano come noi, però almeno quelli che la pensano come noi, che probabilmente sarà, che ne so, un 50% del 60%, credo che questo sia veramente il tempo per elaborare e declinare la coscienza che abbiamo assunto rispetto alla nostra forza. Ci sono anche qualcuno che la pensa come noi che ha votato sì. È vero. E forse parlare anche con queste persone, cioè anche uscire da questa logica calcistica, no? Questa logica binaria, perché appunto ci sono molte forze che francamente mi hanno fatto venire mal di pancia sapendo che stavano lì, no, ma ci sono evidentemente anche dall'altra parte persone che si sono fatte anche un po' corteggiare da questa narrazione del sindaco d'Italia, no, della logica del fare, non in importa che cosa, insomma, fatto sta che la legge della deroga non è più accettabile. Non ci dimentichiamo che siamo in quel quindicennio, no, delle magnifiche sorti e progressive dello sviluppo sostenibile. Sono nati più think tank, più, ci sono più borse di studio, più riunioni, organizzazioni, eventi su questo sviluppo sostenibile. Perché non sia un insulto alla nostra intelligenza, come dire, che ci diano a livello nazionale, a livello locale, nazionale, europeo e globale, un senso che questo è una cosa in cui si crede, non, come dire, una maniera abbastanza surreale, anche abbastanza cinica, di uccidere definitivamente le Nazioni Unite, no? Perché potrebbe essere anche questo. Quindi credo che ci dobbiamo prendere in mano la partita. L'incontro di oggi voleva portare anche questa esperienza interessantissima, forse poco studiata, forse più studiata all'estero che in Italia, del Tribunale Permanente dei Popoli, appunto, in un paese con una struttura democratica cosiddetta. Credo che è un lavoro che non dovrà concludersi stasera, e qui insomma le forze politiche oggi ci sono state, alcune ovviamente non sono potute venire per motivi ovvi, a mettere a Lacci è dovuto andare alle zone terremotate, però insomma avremo noi, sarà anche compito nostro di veicolare questi messaggi, di veicolare anche le letterine che Cesare ha preparato per ognuno di loro, perché appunto questa cinghia di trasmissione della democrazia non si perda, tutto questo sta anche nelle nostre mani. Grazie veramente a tutti voi. Buona serata e buon Natale, visto che ci siamo. Grazie, buon Natale, sicuramente. Ma vedetevi che mi fanno una fotina.